Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Ingannati, storia palestinese, racconto di immigrazione, di e con Nicola Pannelli. Il vecchio Avocaissa. Il vecchio Avocaissa si trovò un bel giorno nella mezza stanza che poi era la sua casa, insieme con la moglie seduta su una sedia che cullava una bambina, e all'amico Saad che stava parlando col vecchio, che gli diceva: se vai fino allo Shatt al-Arab, il fiume, in Kuwait ci arrivi facilmente. Basra, in Iraq, è pieno di contrabbandieri che ti faranno passare clandestinamente attraverso il deserto. Ma perché non ci vai? La moglie del vecchio, di Abukais, sentite queste parole, diede un'occhiata al marito e poi all'uomo che aveva parlato e poi si rimise a cullare la bimba. È un'impresa rischiosa, disse il vecchio, rischiosa. Ma hai sentito tuo marito? Come se la vita fosse una sorsata di yogurt. Ma certo che è rischiosa. Ma perché non fai come noi? Credi di essere tanto migliore di noi? Ma ti piace la vita che fate? Sono passati 10 anni e vivi ancora come un barbone. E tuo figlio, la scuola, e questa bimba, quando crescerà, con che coraggio la guarderai negli occhi? Va bene, ho capito, disse il vecchio. No, non ho finito, è un vero peccato. Hai una famiglia numerosa adesso, ci devi pensare. Ma perché non ci vai? E tu sei sua moglie, digli qualcosa, che cosa ne pensi? Ma la moglie non diceva niente. E il vecchio, Bucais, non aveva il coraggio di guardarla negli occhi. Io sono vecchio, io non potrei camminare come fate voi. La strada è lunga, è faticosa, io morirei. E così in quella mezza stanza che poi era la sua casa scese un silenzio profondo. Da 10 lunghissimi anni il vecchio Bucais aveva perso le sue piante d'ulivo, 10 alberi, dai tronchi contorti che avevano fruttato per tanti anni olio, olive, ben di Dio, eppure non aveva mai smesso di pensarci ai suoi alberi. E al suo villaggio, anch'esso perduto in Palestina, smettila vecchio, sarebbe venuto a dirgli. Così gli diceva l'amico Saad, ti ci sono voluti 10 anni di fame per capire che hai perduto tutto. La tua casa, il tuo villaggio, i tuoi alberi, la tua giovinezza. E in tutto questo tempo l'altra gente che cosa ha fatto? È andata avanti per la sua strada, mentre tu sei rimasto a brancolare come un cane rognoso in questa casa da schifo. Ma cosa pensavi che sarebbe accaduto? Che sarebbero piovuti i soldi dal cielo? Dimenticati degli alberi, vecchio! In Kuwait non esistono alberi! E Kuwait è poco più là dello Shatt al-Arab, il fiume. E in Kuwait c'erano tutte le cose di cui il vecchio era stato privato. In Kuwait esistevano quelle cose che nella mente del vecchio erano solo sogno e fantasia. L'amico, Saad, era emigrato laggiù, aveva fatto l'autista ed era tornato con tanti soldi, soldi a palate, dimenticati degli alberi, vecchio! In Kuwait non esistono alberi, gli alberi sono soltanto qua nella tua testa! E così in quella mezza stanza che poi era la sua casa, il vecchio decise di rompere il silenzio e si rivolse alla moglie. Tu che cosa ne pensi? E la moglie, come vuoi tu? E il vecchio, forse potremmo dare un'istruzione al ragazzo. E la moglie, certo. Forse potremmo comprarci 2 o 3 piantine d'ulivo, disse il vecchio. E la moglie, certo. E forse potremmo anche costruirci un tetto da qualche parte. La moglie, forse. E il vecchio, se ci arrivo. Se ci arrivo, ma il vecchio non ci riuscì, gli venne da piangere. Il labbro inferiore cominciò a tremare, poi una lacrima. Un'unica lacrima che cominciò a spuntare, un'unica grossa lacrima, sempre più grossa, che alla fine solcò la sua guancia rugosa e un groppo alla gola. Arrivato a Basra, in Iraq, il vecchio si trovò nuovamente quel groppo alla gola. Era andato nell'ufficio negozio del contrabbandiere Ciccione, il funzionario Grassone, quello che si incaricava di far passare i clandestini da Basra, in Iraq, al Kuwait. E il vecchio stava in piedi e Ciccione comodamente seduto alla sua scrivania, col ventilatore alle spalle. Un viaggio difficile, vecchio. Ti costerà un pochino, 15 dinari, è il vecchio. Ma poi siamo sicuri che ci si arriva? Ma certo che ci si arriva, disse Ciccione. Certo, ci sarà un po' da faticare, siamo in agosto, fa caldo, nel deserto non c'è un filo d'ombra, sono quello sotto la suola delle scarpe. Ma ci si arriva, e groppo alla gola era sempre lì, però bisognava parlare, bisognava chiedere, perché sennò davvero finiva in un pianto. Senti, io ho fatto migliaia di miglia per arrivare fin qui. Mi ci ha mandato l'amico Saad, forse te lo ricordi. Beh, io ho pensato che ho 15 dinari con me e forse potevi accettarne 10 e lasciare a me quello che resta. Ma non è uno scherzo, vecchio! Non stiamo giocando! Ma non te l'ha detto tuo amico che il prezzo è stabilito, fissato? Noi guide rischiamo molto per mandarvi di là, ma anche noi rischiamo la vita per andarci, disse il vecchio. E chi vi dice di farlo? 10 dinari, disse il vecchio. Per favore, 10 dinari. Ho detto che non è uno scherzo, vecchio. Ma sei sordo? O hai capito? E così di nuovo. Il vecchio non ci riuscì. E Ciccione se ne stava comodamente seduto alla sua scrivania, grondante sudore, nonostante il ventilatore, e lo guardava con gli occhi sgranati, non la smetteva, e così il vecchio sentì che arrivarono calde le lacrime, che prima andarono a riempirgli le sacche degli occhi ed erano pronte a cadere. Provò a dire qualcosa, ma non ci riuscì, la testa se la sentiva piena di lacrime, pronte a solcare il suo volto rugoso, così girò su se stesso, fece tre passi per trovarsi all'uscita. Da fuori la gente era tutta appannata dal pianto. All'orizzonte cielo e terra si confondevano e tutto era avvolto in un nudo bagliore senza fine. Il vecchio si allontanò dall'ufficio negozio del contrabbandiere Ciccione per dirigersi verso lo sciato della lava, il fiume, ma lungo la strada si fece cadere con il petto contro la terra umida che pulsava sotto di lui. Sentiva il profumo salire da quella terra, per un attimo fu come un diluvio che gli inondò le vene, le arterie. Sentiva battere il suo cuore e pensò che quello non era il suo cuore che batteva, ma quella terra che attraverso la sabbia stava provando a dirgli qualcosa. Abu Qais, questo era il nome del vecchio, Abu Qais. Asad, l'uomo. Anche Asad era andato nell'ufficio del negozio del contrabbandiere Ciccione, il funzionario grassone, quello che si incaricava di far passare i clandestini da Basra in Iraq al Kuwait. Senti, io i soldi te li darò, ma soltanto una volta che saremo arrivati, va bene? Non prima, Ciccione, perché? Perché la guida che ci manderai a metà strada taglierà la corda, ecco perché. I soldi io te lo assicuro, te li darò, ma soltanto una volta che saremo arrivati. Ciccione si mise a piegare dei fogli di carta giallastra. Amico carissimo, fratello mio caro, nessuno ti obbliga. Se non ti vanno bene le nostre condizioni, puoi girare su te stesso, fare tre passi e ti ritroverai per strada. E Asad per strada ci si era già trovato, era già stato fregato una volta. Il tipo che dalla Giordania gli aveva promesso di portarlo fino a Baghdad, fino in Iraq, lungo la strada, in mezzo al deserto, aveva fermato la macchina e spento il motore. Ora scendi, aveva detto. Devi farti una lunga camminata da solo nel deserto, devi passare da solo la frontiera, le guardie di confine, ma sei giovane e forte e il caldo lo puoi sopportare. Ma come? Aveva detto Asad. Non erano i patti! Mi avevi detto come avresti portato fino a Baghdad, fino in Iraq, ti ho pagato 20 dinari per questo, non uno solo, che storia è questa? Ma non capisci che mi rovino con te, aveva detto quell'altro. Io ti vengo soltanto perché conoscevo tuo padre, 10 anni fa abbiamo combattuto insieme contro gli israeliani, ti aiuto solo per questo, 20 dinari e ti faccio arrivare a Baghdad. Ma come 20 dinari? Se ti ho già pagato, io ti salvo la vita, aveva detto quello. Con questi 20 dinari, il tuo nome è su tutti i registri, se ti trovano adesso che cosa succede? Sei senza passaporto, lascia passare, sei su tutti i registri, sei un terrorista. E dove li trovo adesso altri 20 dinari, aveva detto Asad. Fateli prestare, un amico te li dà sicuramente, se sa che sei diretto in Kuwait. Forza, ti incontrerò domattina, passate le guardie, superate il confine. E nell'ufficio del contrabbandiere Ciccione, lì a Bassara, e Ciccione gli disse, sei addormentato? Guarda che non ho tempo da perdere, io sono molto occupato. Allora, 15 dinari e ti faccio arrivare in Kuwait. No, sei tu che non hai capito. Ti ho già detto che i soldi te li darò soltanto una volta che saremo arrivati. Ma quanto sei diffidente! Ma su che ci arrivi in Kuwait! Ti giuro sul mio onore che arriverai in Kuwait! Ti giuro sul mio onore. Aveva già sentito questa espressione. Anche quell'altro aveva giurato sul proprio onore. Ti giuro sul mio onore che ti incontrerò domattina passate le guardie e superate il confine. Intanto Asad si era fatto un lungo giro sotto un sole che rovesciava fuoco sulla sua testa. E mentre saliva per i pendii giallastri, a un certo punto credette di essere rimasto l'unico uomo a quel mondo. Trascinava le gambe Asad come un uomo esaurito sulla riva del mare dopo aver tirato a secco una barca pesante. E poi salire sulle rocce dure come schegge, attraversare le basse dune dai dossi piani di sabbia soffice come farina. Camminava con quello straccio infuocato che non serviva per niente a riparargli la testa. L'orizzonte arancione era un insieme di linee tutte dritte. Camminava Asad e non rallentò nemmeno quando la terra sotto i suoi piedi si trasformò improvvisamente in splendidi fogli di carta giallastra. E nell'ufficio del contrabbandiere Ciccione lì a Bassara alcuni fogli di carta giallastra cominciarono a prendere il volo. Asad si piegò a raccoglierli e Ciccione, grazie a questo ventilatore. E fa prendere il volo a tutto. Senza non si può stare. Allora, giovanotto, che cosa abbiamo deciso? E Azad, ma tu sei sicuro che la guida non ci abbandonerà? Ma come mi può abbandonare? Ma sei scemo! Sarete più di 10, come potrà tagliare la corda? E Azad, e quanto ci sarà da camminare? 6, disse Ciccione. 7 ore soltanto. 6 o 7 ore soltanto. Lungo la strada, nell'inutile attesa della sua guida, Azad si era fermato dopo 4 ore di cammino. La testa continuava a bruciargli ed era il tramonto. Non sapeva se era sangue o sudore quello che gli colava giù dalla fronte. Seduto su una pietra scavata, scrutava la strada che si perdeva nera, rettilinea, all'orizzonte. Era confuso. La testa se la sentiva percorrere da migliaia di voci indistinte. Così all'improvviso la comparsa all'orizzonte di una gigantesca macchina rossa gli parve nient'altro che assurda. Un'allucinazione, della sua guida neppure l'ombra. La testa che continuava a ronzargli come un vespaio con quel poco fiato che aveva in gola cominciò a gridare: maledetto bastardo! Maledetto sia tu, tuo padre, tuo nonno, tutti i tuoi antenati! E nell'ufficio del contrabbandiere Ciccione lì a Bassera, e Ciccione gli disse: hai detto qualcosa? E Azad: no. Quando si parte? Quando saremo in 10? Mica possiamo mandare una guida per ognuno di quelli che siete. Quando sarete in 10? Questione di 1 o 2 giorni. Adesso tira fuori i miei soldi. I soldi. Un altro bel argomento nella testolina di Azad. I soldi li aveva dati lo zio, ma gli aveva fatti pesare, lo aveva umiliato. Non ci posso pensare, aveva detto. A mia figlia che ti aspetta per essere tua sposa. Sistemati, ragazzo mio. Sistemati magari anche all'inferno, ma sistemati, se no ti troverai per sempre su una strada. Eccoli qua, 50 dinari, i risparmi di tutta una vita. Ma chi gliel'aveva detto allo zio che Azad voleva sposare la figlia? Ma chi gli aveva mai messo in testa che Azad aveva la minima intenzione di sposarsi? Adesso lo zio, con quei 50 dinari, voleva comprarlo come si compra un sacco di merda per concimare l'orto. Avrebbe voluto prendere quei soldi e darli indietro allo zio. Tuo zio, tieni, non li voglio i tuoi soldi, tieniteli stretti. Ma quando li sentì nella tasca, quando strinse quel denaro morbido e caldo, pensò di stringere in quel momento le chiavi di tutto il futuro. No, disse Azad a Ciccione lì nell'ufficio negozio di Bassera, no, ti pagherò alla partenza, quando tutto sarà pronto, e verrò qui tutti i giorni, hai capito? Tanto sono alloggiato in una locanda qui vicino, e per tutta risposta il Ciccione fece un sorrisetto, che poi si tramutò in una smorfia. Poi cominciò effettivamente a sorridere, dopodiché sbottò in una grassa e sonora risata. Ma bravo, bravo! Bravo il nostro amico di Pidente, bravo! Ah sì, vai pure a controllare dagli altri contrabbandieri, ma non ti illudere, perché ci siamo accordati, facciamo tutti quanti lo stesso prezzo. A che locanda siamo alloggiati, giovanotto? E Azad, alla locanda che si chiama lo Shah. Ma bravo, bella scelta! Quella locanda è piena così di topi! Ed effettivamente, lungo la strada, nel deserto, era passato rapidamente un topolino. E proprio lì, al tramonto, Azad aveva fatto segno ad una piccola auto con due turisti, moglie e marito, che l'avevano fatto salire a bordo. E la moglie scambiava quei topi per volpi. Guarda, una volpe! E il marito: no, non è una volpe, è un topo. Azad tremava di freddo, di stanchezza, di paura, non lo sapeva neanche lui. La moglie gli diede una coperta in cui avvolgersi e il marito capì subito che Azad stava scappando. Ma ti ha abbandonato la guida, vero? Succede sempre così. Adesso riposati che poi mi darai il cambio. Passeremo il confine iracheno di notte quando dormono tutti. E la moglie: guarda, un'altra volpe, il marito. Non è una volpe, è un topo, te l'ho già detto. Questo deserto è pieno di topi. E nell'ufficio del contrabbandiere Ciccione lì a Bassera, Azad e Ciccione si scambiarono un'ultima occhiata. Dopodiché Azad girò su se stesso, fece 3 passi e si ritrovò all'uscita, inseguito dalla voce ridacchiante del Ciccione che gli diceva: attenzione a quella locanda che è piena così di topi, attenzione che non ti mangino, gna gna gna, prima della partenza. Marwan, il ragazzo. Anche Marwan era uscito da lì, dall'ufficio negozio del contrabbandiere Ciccione, il funzionario grassone che si incaricava di far passare i clandestini da Basra in Iraq al Kuwait, e si era ritrovato sulla strada affollata e profumata dei datteri e della paglia dei cesti grandi, ed era uscito di lì senza speranza. Tutti i fili che l'avevano tenuto in piedi per tutti quei mesi si erano spezzati lì dentro, lì dal Ciccione. 15 dinari, ragazzino, hai capito? Ma che? Ti prego! Ti prego, ragazzino, non cominciare con i ma! Venite tutti quanti qua a lamentarvi come se foste un branco di vedove. Ragazzino, fratello carissimo, amico mio caro, nessuno ti obbliga a startene qui. Perché non vai a sentire dagli altri contrabbandieri? Che Bassera è piena così di contrabbandieri. E certo, Ci sarebbe andato a Marwan a sentire, a controllare, perché uno che conosceva, che era stato 4 anni in Kuwait, gli aveva detto che bastavano 5 dinari per passare di là, solo che avrebbe dovuto mostrarsi forte, uomo, sicuro di sé, perché sennò tutti l'avrebbero preso in giro, ingannato, per via dei suoi 16 anni. Senti, disse al ciccione, io so che la tariffa a persona è di 5 dinari per passare di là. E il ciccione, certo, come no, questo succedeva la notte dei tempi, prima che Adamo ed Eva facessero la conoscenza, poi si sono conosciuti, c'è stata la storia della mela, della pera, della banana, di quella che è, e i prezzi sono cambiati, ragazzino, mi sono stufato! Girati su te stesso, fai 3 passi e ritrovati sulla strada prima di essere buttato fuori a calci. Però Marwan aveva soltanto 7 dinari, soltanto 7. Per cui prese la decisione e si dimostrò uomo, sicuro di sé, forte, gli disse, tu accetti i miei 5 dinari e basta, hai capito? E stai attento, perché sennò io cosa? Se no io ti denuncio alla polizia. Ciccione balzò in piedi, fece il giro della scrivania, si piazzò proprio davanti a Marwan, grondava, sudore, ansimava, guardò Marwan dalla testa ai piedi, poi sollevò in aria la sua mano pesante. Vuoi denunciarmi a quei rotti in culo dei poliziotti, brutto figlio di... La mano pesante si abbatté sulla guancia sinistra di Marwan prima che Marwan potesse dire anche semplicemente... E nel contempo un frastuono assordante gli sconquassò l'orecchio, fece dei passetti indietro, perse quasi l'equilibrio, intanto gli arrivò rauca di rabbia la voce del ciccione, vai a dire che questo è il roticolo dei poliziotti, vai a dire che ti ho picchiato, diglielo pure. Marwan non sapeva cosa fare, stare fermo, reagire, dire qualcosa, ma cosa reagire? Cosa stare fermo? Aveva fatto uno sbaglio imperdonabile, questo lo sapeva, così con il segno delle 5 dita che ancora gli bruciavano sulla guancia sinistra, cominciò a masticare la sua umiliazione. E intanto il ciccione non la smetteva, sei ancora qua, vattene via! E così Marwan girò su se stesso, fece 3 passi e si ritrovò all'uscita, là fuori il naso aggredito dal profumo forte dei datteri e dei cesti di paglia. Adesso che cosa faccio? Però là fuori Marwan, senza sapere perché, in mezzo alla gente, non riusciva ad essere triste. Appoggiato ad un muro, c'era qualcosa dentro di lui che continuava a sprizzare felicità. Come spiegarlo? È difficile dire, ma nonostante l'incontro terribile con il ciccione, c'era qualcosa dentro di lui che continuava a mandare tranquillità, soddisfazione, proprio come quando si esce da un cinema dopo aver visto un bel film esaltante. Sì, la vita è una cosa meravigliosa, io un giorno sarò uno di quelli che se la gode, perché la vita va vissuta così, intensamente, minuto per minuto, in maniera varia, eccitante, però era strano. Non riuscivo a capire perché Marwan quella sensazione ce l'avesse proprio in quel momento, che prima di tutto era già un bel pezzo che non vedeva un film esaltante. E poi, dopo l'incontro terribile avuto con il ciccione, provò a capire perché di quella felicità. Però non ci riuscì, così smise di sforzarsi e cominciò a camminare in mezzo alla gente, ad andare. Ma non aveva fatto 2 passi, scostandosi dal muro al quale si era appoggiato, che sentì una mano battergli sulla spalla. Non te la prendere. Non disperare. Cosa farai? E Marwan parve di conoscere il tipo che si mise a camminare con lui lungo la strada, solo si discostò un pochino per poterlo guardare meglio. Ma perché sei andato da ciccione? Lo sanno tutti che è un ladro. Perché ci sei andato? E Marwan, perché ci vanno tutti. Il tipo prese Marwan sotto braccio. Ma vuoi andare in Kuwait, ragazzino? E Marwan, come fai a saperlo? Ero fuori dal negozio, l'ho visto entrare, l'ho visto uscire. Come ti chiami? Marwan, disse Marwan. E tu? A me mi chiamano Canna. E a Marwan parve che fosse proprio vero, il tipo che si era fermato a parlare con lui assomigliava davvero a una canna, era altissimo, magro, con il collo e le braccia che però sembravano molto forti. Marwan pensò da sé che se quel tipo si fosse piegato, avesse infilato la testa in mezzo alle gambe, non si sarebbe rotto niente, la spina dorsale, nessun altro osso. Va bene, gli disse però, che cosa vuoi da me? Perché vuoi andare in Kuwait, Marwan? E Marwan, perché cerco lavoro, perché lo sai come stanno le cose da noi in Palestina, io sono mesi che... Improvvisamente Marwan realizzò il perché di quella felicità di prima e difatti una nuova ondata di gioia divampò dentro di lui, e perché aveva scritto una lettera a sua mamma quella mattina. Si era svegliato presto alla luce del sole, perché con quei giorni di gran caldo aveva dormito all'aperto, aveva portato la branda sulla terrazza della locanda. Si era svegliato alla luce del sole, una bella giornata, il cielo blu, colombi neri che volteggiavano bassi. Si sentiva l'odore fresco, umido e pulito delle prime ore del giorno. Marwan aveva tirato fuori dal sotto il letto la borsa del viaggio, tirato fuori in quaderno una penna, aveva cominciato a scrivere «Cara mamma, virgola». E le scriveva del padre, che se n'era andato. E non sapeva Marwan perché ci mettesse tanto disprezzo in quelle lettere. Non odiava il padre, non poteva, non voleva odiare il padre, però non cancellava per esempio quella frase in cui aveva definito il padre un cagnaccio. Lasciare 4 figli, mamma, virgola, e divorziare da te per andare a sposare quella giovane storpia, punto e virgola, 2 punti. È una cosa che papà non potrà perdonare a se stesso quando tornerà in sé. Un giorno si renderà conto di quello che ha fatto. Io so, mamma, che tu non vuoi che nessuno di noi ne parli, ma perché tu pensi che l'abbia fatto proprio a te? Punto di domanda. Te lo dico io, mamma. Tutto è cominciato da quando Zaccaria, mio fratello, dal Kuwait, non ha mandato più soldi, né notizie. Te lo ricordi, mamma, virgola? Papà lo diceva sempre, che quando un uomo entra in vecchiaia deve smettere di dover badare a sfamare mezza dozzina di bocche. Ma poi Zaccaria è sparito, soldi finiti. E allora chi sfamerà le bocche, mamma, virgola? Chi farà studiare Marwan? Chi porterà a casa i vestitini per me? Chi porterà a casa il pane per i più piccoli? Te lo ricordi, mamma? Papà lo diceva sempre. Zaccaria è sparito, soldi finiti, ambizioni frustrate, sogni distrutti. Ed ecco mamma, virgola, che viene fuori col suo vecchio amico di papà che gli offre di sposare la giovane figlia storpia. E papà avrà pensato che la ragazza in dote ha una casa con 3 stanze, in una ci si poteva abitare, mamma, virgola, e le altre 2 affittare per vivere bene per il resto dei giorni. Quel suo amico vecchio non aveva nient'altro in mente se non scaricarsi di dosso quella figlia storpia che aveva perduto la gamba quando le bande ebraiche, i terroristi dell'Irgun, gli avevano spappolato la gamba con una bomba di mortaio. E nessuno la voleva sposare, mamma, per via di quella gamba appoggiata fino alla coscia. Ecco come sono andate le cose, mamma, virgola. Ecco perché papà se n'è andato, appunto. E mentre camminavano insieme, Canna e Marwan, a un certo punto Canna gli disse: zio, ti posso portare in Kuwait? E Marwan: in che modo? Lascia perdere. Vuoi andare in Kuwait? Hai trovato che ti si può portare. E quanto chiedi per questo? Lascia perdere. E non lascia perdere, no! Così Canna per la prima volta fece vedere a Marwan il suo bel sorriso. Le sue labbra si schiusero su 2 file di denti ben grossi e un bianco splendente. Marwan, voglio essere sincero con te. Io mi sono detto: Canna, visto che devi andare di là, perché non ci porti pure qualcuno così non tiri su un po' di soldi? Quanto puoi pagare, Marwan? 5 dinari. Così poco. È tutto quello che ho. Va bene, le accetto. Però se qualcuno mi offre il doppio, tu non gli devi dire niente a nessuno, va bene? Sì, sì, d'accordo, disse Marwan. Ma come faccio a fidarmi di te? E Canna, ti ha detto, come fai a fidarti di me? Beh, facciamo così, mi pagherai una volta che saremo arrivati, va bene, disse Marwan. E Canna, però adesso mi devi aiutare a trovare qualcuno che faccia il viaggio insieme a noi. Sì, disse Marwan, conosco giusto uno alla locanda che mi ha detto che vuole passare di là. Bene, disse Canna, anch'io conosco uno vecchio che è nel mio stesso villaggio in Palestina. Ma dimmi una cosa, Marwan, ma tu sei un ragazzino, che cosa ci vai a fare in Kuwait? Dovresti andare a scuola. E Marwan: perché c'è mio fratello laggiù, lo vado a trovare, a cercare lavoro. Ah, ho capito, disse Canna, si è sposato, non manda più soldi né notizie. Come faceva a sapere che si fosse sposato? Era un segreto che anche alla mamma era stato tacciuto per non deluderla. Ma perché? Perché vanno tutti così, disse Canna, vanno di là, si sistemano e si dimenticano della vecchia famiglia. Ma perché lo fanno, disse Marwan, perché rinnegano tutto? Perché? Ragazzino, sono contento che tu vada in Kuwait, perché là imparerai un sacco di cose. E Marwan: per esempio che prima vengono i soldi e dopo la morale. Adesso vai a chiamare il tuo amico alla locanda. Ci vediamo fra un'ora a quella panchina di cemento, quella là, lungo la via dello Shatt al-Arab. Ci vediamo fra un'ora. E mentre Marwan andava a chiamare Azad alla locanda, dentro di sé era deluso. Il fratello si era sposato, non aveva detto niente a nessuno se non a lui, per fargli sentire 2 volte la sua nuova responsabilità. Gli aveva scritto una lettera: caro fratello Marwan, virgola, tocca adesso mantenere la famiglia. Fai come me, virgola, fai come tutti, virgola, buttati nella padella. E Zaccaria, il fratello, nella padella, come diceva lui, ci si era buttato prestissimo, fin dai tempi in cui i carri armati delle truppe ebraiche li avevano cacciati, espulsi dai loro villaggi, dalla Palestina, dalla loro terra. Aveva interrotto gli studi Zaccaria, adesso toccava pure a Marwan. Però Marwan non riusciva a detestare il fratello, e nemmeno il padre, non odiava il padre, anzi era sicuro di amare il padre di un amore profondo, indistruttibile. Una volta era andato a trovarlo, di nascosto dalla madre, nella casa della sua giovane sposa storpia, e aveva trovato lei, seduta per terra, con l'unica gamba allungata, che preparava una cosa in una ciotola per la cena. E lei gli aveva detto: tante volte abbiamo chiesto a tua madre di venire ad abitare con noi, ma non ha mai voluto. Era bello il volto della giovane storpia, però duro, duro come quello dei malati che sanno che mai guariranno. E il padre gli aveva detto: scrivi, scrivi Marwan, scrivi, e gli aveva dato i soldi. Poi: coraggio Marwan, coraggio. Marwan condusse Azad all'appuntamento con Canna, arrivarono un po' in ritardo e trovarono Canna e Bukhais seduti sulla panchina di cemento. E quando Canna li vide arrivare, balzò in piedi e disse: Adesso una banda completa, poi diede una pacca sulle spalle di Marwan, allungò la mano, l'altra mano per darla al nuovo arrivato. Così questo disse a Marwan: è l'amico di cui mi hai parlato? Sì, disse Marwan. E come si chiama? È un po' bruscamente Marwan. Azad. Bene, qui invece abbiamo lo zio Abu Qais. Con lui la banda era completa. Certo, ci vorrebbe qualcun altro per il viaggio, ma siamo già abbastanza. E Azad parlò. Senti, Khan, no? Hai detto che ti chiami? Sì. Ma tu sei palestinese come noi? Sì, disse Khan. Ma sei tu quello che si impegna a farci passare di là? Sì, disse Khan. Ma come pensi di farlo? Sono affari miei. No, non sono affari tuoi, disse Azad. Sono affari nostri. Noi non vogliamo avere problemi fin dall'inizio. Voi cosa dite, zio? Marwan, siete d'accordo o se tratto io l'affare? Abu Qais alzò la mano, d'accordo. Marwan fece sì con la testa. Bene, Khan, loro mi danno mandato. Allora lascia che ti dica una cosa. Noi non vogliamo avere problemi fin dall'inizio. Noi vogliamo sapere tutti i dettagli, i particolari di questo viaggio. E ci dirai subito quanti soldi ci chiedi. E se avrai inteso, noi ti pagheremo soltanto una volta che saremo arrivati. Di fronte a tutta questa richiesta di chiarezza, Khan tirò via le mani dalle tasche, posò i pugni sui fianchi, guardò uno per uno i suoi possibili compagni di viaggio, poi piazzò lo sguardo proprio negli occhi di Azad. Beh, visto che vuoi tutta questa chiarezza, fin da subito vi dirò che ognuno di voi mi pagherà 10 dinari per il viaggio, e lo zio Abu Qais. Va bene, d'accordo, Azad. No, aspetta, zio, mi hai dato mandato, fai parlare a me. Canna, guarda che 10 dinari sono una bella cifra. I contrabbandieri, quelli del ciccione, ne chiedono 15, però loro sono esperti. Io non lo so se tu a quel punto, Khan, andò su tutte le furie. Stava cominciando malissimo. Non siamo nemmeno partiti, abbiamo già messo il piede sbagliato. Voi mi pagherete 10 dinari per questo viaggio, non un soldo di meno, e adesso me ne vado. Infatti, Khan si girò e fece due passi lunghi, anche se molto lenti, per andarsene via. E fu il vecchio ad andare a tirarlo per la giacchetta. No, aspetta, non te ne andare, Khan, non te ne arrabbiare. Si fa per chiedere, per avere risposte. Lo sai com'è, no? Che l'accordo è l'amico, il fratello della pazienza. Ma sì, torna qua, Canna, questa è Azad. Va bene per i tuoi 10 dinari. E quando Canna tornò in mezzo a loro, Azad continuò: senti, ma come hai intenzione di farci passare il confine? E così Canna fece vedere per la prima volta a tutti e tre il suo bel sorriso. Di nuovo le sue labbra si schiusero su due file di denti ben grossi, di un bianco splendente. Adesso sì, che facciamo sul serio? Venite qua, ascoltate. Si mise a sedere sulla panchina di cemento. Gli altri tre si fecero intorno in piedi. Aveva delle braccia lunghe e canna. Allora, ascoltate. Io ho un camion che è autorizzato a passare la frontiera. Oh, attenzione, il camion non è mio. Io sono più povero di voi. Io lo guido il camion. Il padrone è ricco e conosciuto e il camion non passa tanto tempo alla frontiera e non viene mai perquisito. Insomma, padrone conosciuto e rispettato. Camion conosciuto e rispettato. Autista di camion, conosciuto e rispettato pure lui. E Canna era veramente un autista proieto. Prima del 48 aveva lavorato con gli inglesi per 5 anni, poi nel 48, 15 maggio 1948, con la nascita dello Stato di Israele, di cui oggi ricorrono i 60 anni, ma sono anche i 60 anni della Nakba per i palestinesi, la catastrofe. Permettetemi di fare qualche decina di secondi di silenzio. Dopo il 48 aveva cominciato a stare con i guerriglieri, in mezzo ai quali la sua fama di autista, di mezzi, si era diffusa, ma come si può diffondere con il vento? Tanto che un giorno dal villaggio di El Tira l'avevano chiamato per spostare un autoblindo che si era piazzato lì in mezzo alla strada e nessuno riusciva a spostarlo dopo che era rimasto bloccato dopo un attacco ebraico fallito e nessuno lo sapeva guidare. Neanche Carlo aveva mai guidato l'autoblindo, però non deluse le aspettative di quelli che si erano radurati lungo la stretta strada sabbiosa. Entrò dentro, sparì nell'abitacolo, poi dopo qualche secondo, vai! Riuscì a metterlo in moto, suscitando scalpore in tutti quelli che erano lì lungo la strada, e riuscì anche a muoverlo l'autoblindo di un centimetro, due centimetri, tre centimetri, quattro centimetri, dieci centimetri, mezzo metro, un metro, metro e mezzo, ma quando arrivò a fare due metri, l'autoblindo si bloccò, e si piantò il motore, non ci fu più verso di spostarlo da lì, con grande delusione di tutti quanti e soprattutto di Canna, che non era riuscito nella sua impresa. Però da quel giorno la sua esperienza in fatto di motori crebbe tanto che fu per quella ragione, forse per altre, questo non si saprà mai, divenne l'autista di autocisterna, camion autocisterna con l'acqua, favorito del suo nuovo ricco padrone. Era successo così che Canna fosse riuscita a portare la cisterna con l'acqua al camion lungo una strada fangosa, ricoperta di sale, senza sprofondare, impantanarsi e bloccarsi, come era successo a tutti gli altri mezzi. Il padrone, che si chiamava Rida, era andato a fare una partita di caccia nel deserto, portandosi tanti mezzi e tanti uomini. Di ritorno da quel safari, tutti quanti avevano imboccato la primavera da Bugiarda, quella strada che sembrava dura, senza nessuna paura. Ma fatto un breve tratto di strada, tutti i mezzi cominciarono a impantanarsi, infangarsi e a bloccarsi tutti quanti, tranne Carlo. E invece dal fondo della colonna cominciò a superare tutti quanti gli altri, arrivò in cima alla colonna, tirò giù il finestrino e disse: capo, se vuole andare fino a casa ce lo posso portare io, qui per sbloccare tutta questa matassa ci vorranno almeno 4 ore, se vuole arrivare fino a casa ce la posso portare io. Era successo che Canna aveva capito che quella strada era traditrice, era una strada fangosa ricoperta da un sottile strato di sale che si era seccato in superficie, così aveva cominciato a dare rapidi, leggeri movimenti a destra e a sinistra del volante, in modo che le ruote anteriori si aprissero un varco più grande del necessario. Da quella volta il capo di Canna non faceva che parlare di lui, Canna di qua, gli amici gli aveva fatto una testa così, aveva addirittura messo una fotografia incorniciata d'oro sulla sua scrivania di Canna e gli aveva anche aumentato di pochissimo lo stipendio quando aveva sentito che Canna aveva rifiutato offerte di lavoro. Insomma, anche quella volta Canna stava tornando da una partita di calcio col suo capo, solo che doveva essere già con gli altri, ma il motore dell'autocisterna aveva avuto dei problemi, si era fermato a Bassara 2 giorni per le riparazioni. A sentire questo racconto gli altri rimasero a bocca aperta, in silenzio. E fu Marwan a chiedere la prima cosa. Senti, Canna, fammi capire, tu hai intenzione di farci fare il viaggio nella cisterna? E certo, disse Canna. Io mi sono detto, Canna, visto che devi andare di là, e il camion non viene mai perquisito, perché non ci porti pure qualcuno e non tiri su un po' di soldi? No, forse non hai capito. Forse non ti rendi conto, questo è l'altro. Ma chi è che appostasse nel seduto là dentro, con questo caldo? Non la fate tanto lunga. Come se fosse la prima volta, venite qua, ascoltate, ora vi spiego come funziona. Io aprirò il coperchio della cisterna e voi entrerete dentro 50 metri prima del primo posto di frontiera, Safuan. Poi 5 minuti, 6 minuti al massimo per spiegare le carte e 50 metri dopo e verrete fuori. Ripeteremo lo stesso scherzetto al secondo posto di frontiera, quello di Mutra, la frontiera con il Kuwait. E il gioco è fatto. Azad cominciò a scuotere la testa, a fare smorfie con il labbro inferiore, a guardare per terra. Intanto Marwan si era messo a giocherellare con un ramoscello d'olivo secco, a fare disegni strani sulla sabbia. L'unico che rimase a guardare a occhi sbarrati lo spilungone dell'autista era il vecchio, che intanto si era messo a sedere. Sembrava che volesse dire qualcosa di importante, però che ancora non era pronto. E così fu ancora Marwan a chiedere: senti Canna, c'è acqua nell'autocisterna? Quale acqua? Disse Canna. Cosa sono? Un contrabbandiere o un maestro di moto? Sono 6 mesi che quella cisterna non vede l'acqua. Cosa sono? Un contrabbandiere o un maestro di moto? E così il vecchio Abukais si preparò a fare un lungo discorso. Prima guardò negli occhi dei suoi possibili compagni di viaggio, Azad e Marwan, e poi piantò il suo sguardo incerto, insicuro, negli occhi di Canna. Senti, io non lo so. Io sono un povero uomo, forse non capisco niente. Tu non ti arrabbiare. Tu prima dici che sei andato nel deserto una partita di calcio dove portavi l'acqua, poi hai detto che sono 6 mesi che quella cisterna non vede l'acqua, io dubito persino che tu ce l'abbia il camion. Io preferisco pagare 15 dinari e andare con i contrabbandieri del ciccione, io non voglio avere problemi fin dall'inizio, e Canna. Ma sì, bravi, andate pure con quei contrabbandieri, come se non li conoscessi, e vedrete se la guida non vi abbandonerà, e voi non vi squaglierete nel deserto come tante cere sotto il sole d'agosto. Ma io ne ho sentiti di tanti, questo è vecchio, che sono passati proprio con quei contrabbandieri del ciccione. Meno del 10%, dice Canna. Meno del 10%. E comunque andate a chiedere anche quel 10% lì, se in ogni caso la guida non li ha abbandonati e se non è stato un miracolo a farli arrivare in guai. Con queste parole tutti e tre rimasero impietriti. Così Canna ne approfittò. Allora io non ho tempo da perdere, vi dovete decidere. Io sono un tipo molto occupato, allora vi giuro sul mio onore che vi faccio arrivare in Kuwait. E con calma Azad lo interruppe: lascia stare l'onore, Canna, le cose vanno molto meglio quando non si giura sul proprio onore. Dunque le cose stanno così, ma guanti, io la storia della partita di caccia è una storia che va giusto bene per le guardie di confine. La verità è che il nostro amico qui fa il contrabbando per il suo ricco padrone, che porta di qua di là le confine robe preziose e permette al suo autista di arrotondare portandoci pure qualcuno. Che contrabbando fa il tuo capo, Canna? Così Canna, che normalmente aveva il sorriso sul suo volto, assunse un'espressione di superiore indifferenza. Non pensate te, Azad, di essere più furbo di tutti quanti gli altri. Io non ho tempo da perdere, signori, vi dovete decidere. E così Azad scosse la testa e cominciò a dire: per me non c'è niente che abbia importanza se non arrivare in Kuwait. Niente mi importa di più. E allora ho deciso, io farò il mio viaggio con calma. Il ragazzino, Marwan, alzando le braccia, anch'io, il vecchio? Il vecchio guardò gli altri due. Voi cosa pensate? Che io possa accompagnarvi? Io sono vecchio. Canna fece una bella risata, diede una pacca sulle spalle del vecchio e gli disse: ma certo ne vieni anche tu! Ma chi te l'ha messo in testa che sei vecchio? Tua moglie! Ma certo, ti dirò di più, stanotte dormirai con me sul camion. Invece domattina verremo a chiamarvi noi alla locanda. Vi sveglieremo con due colpi di clacson. Papà! Ci vediamo domattina! Dammi! E viaggiare sul cassone di quel camion gigantesco non era poi così scomodo. Benché il sole rovesciasse loro addosso la sua fiamma senza tregua, la brezza generata dalla corsa del camion diminuiva un po' l'intensità del calore. Marwan e il vecchio erano di fuori, sull'orlo della cisterna, uno accanto all'altro, mentre Asad si faceva il primo turno in cabina, il primo turno, la prima parte del viaggio insieme a Canna. E la strada che avevano davanti sembrava proprio la via che Dio aveva prescritto per le sue creature. Chi riesce a superare il deserto va in paradiso, chi non ci riesce va all'inferno, perché quella strada, quel deserto erano l'inferno, e laggiù all'orizzonte, invisibili dal camion, le guardie di confine erano gli angioletti del paradiso. Passò un po' di tempo in silenzio in cabina, dopodiché Asad domandò: senti Canna, ma tu non ti sei mai sposato? Il volto di Canna perse il sorriso abituale, si velò di tristezza. Perché me lo domandi? Ma così, perché penso che tu faccia una vita meravigliosa? E sempre in giro, senza che nessuno ti tiri per la giacchetta? Voli via, come un gabbiano! Canna scosse la testa e poi strinse le palpebre per ripararsi dalla luce del sole che adesso arrivò come una frustata sul parabrezza. Canna si era già trovato un bel giorno con una luce accecante che la abbagliava e in quel momento sentiva un dolore atroce che gli si attorcigliava alle cosce. Poco dopo si era accorto che le sue gambe erano legate a dei supporti tenute sospese, che c'erano altri uomini intorno a lui, e legato così in quella stanza, tutto quello che poteva ricordare in quel momento è che poco prima stava correndo con altri uomini armati e poi era scoppiato l'inferno sotto di lui, ricordava solo questo. E adesso c'era quel dolore atroce in mezzo alle gambe, quella lampada sospesa, rotonda, sopra di lui, e un pensiero atroce cominciò a farsi strada nella sua mente e lui cominciò a gridare: no! No! Poi aveva sentito una mano viscida, lattice, va a toccargli, tappargli la bocca e qualcuno dirgli: coraggio! Una voce ovattata: coraggio, sii ragionevole! Molto meglio questo che la morte! Canna in quel momento non sapeva se là fuori potevano sentirlo, perché lui dentro di sé diceva o gridava: no! Molto meglio la morte! Molto meglio la morte! Erano passati 10 anni da quella scena orribile, Canna ancora non era riuscito ad abituarsi, ad accettare la cosa. Ci aveva provato per 10 anni ad accettare la nuova situazione, ma non c'era riuscito. Aveva perso la virilità per la patria. E che cosa, a cosa era servito? Che aveva perso la virilità, la patria e tutto quanto in questo mondo della malora. Aveva provato a riabituarsi alla vita in questi 10 anni, ma nemmeno quello, nemmeno la vita era riuscita a riabituarsi. Così ogni volta che adesso qualcuno gli domandava: Canna, ma ti sei mai sposato? Tutto quello che succedeva è che lui sentiva una forte fitta all'inguine e si ricordava quel giorno con la lampada accecante, abbagliante sopra di lui. E adesso la luce del sole era veramente incandescente, veramente abbagliante, così gli occhi di Canna cominciarono a lacrimare. Asad non volle sapere più niente, anzi abbassò il parasole per fare ombra sul volto di Canna. Grazie, disse Canna. E dopo un po': ma lo sai Asad che il vecchio è fortunato? Perché? Lo sai cosa sarebbe successo se fosse andato con quegli altri contrabbandieri? Solo un miracolo lo avrebbe portato in Kuwait. Io ne conosco tante di storie Asad. Tu non sai come vanno le cose da queste parti. Ma lo sai che una volta mio cugino ha camminato 10 ore nel deserto e di notte la sua guida, indicando delle luci lontane, gli ha detto: ecco, quello è il Kuwait, ci arriverete in mezz'ora. Lo sai invece dove li avevamo andati? In un villaggio sperduto iracheno. Ne conosco tantissime di storie Asad. A migliaia te ne potrei raccontare, di uomini trasformati in cani a furia di cercare un goccio d'acqua per bagnare la lingua piena di crepe, ma lo sai che una volta un uomo è sopravvissuto da solo nel deserto Asad 4 giorni e quando una macchina l'ha tirato su lungo la strada stava esalando l'ultimo respiro, Lo sai che cosa aveva in mente quell'uomo lì, esatto? Una sola cosa aveva in mente, l'avrebbe realizzata anche a costo di riattraversare il deserto da solo per 4 giorni, va. Lo sai che cosa aveva in mente quell'uomo lì, va. Quello non voleva mica più andare in Kuwait, ma che niente ha fatto, va. Quello voleva tornare a Bassora a strozzare i ciccioni. Era partito da Gaza con 2 amici d'infanzia, esatto. Insieme avevano attraversato Israele, la Giordania, l'Iraq e prima di arrivare in Kuwait la guida li aveva abbandonati, va. Gli amici erano due morti, va. Lui li aveva sepolti, prima però ne aveva tirato fuori i documenti perché un giorno li avrebbe spediti alle famiglie, va. E non potevi fargli cambiare opinione, va. Non potevi mica dargli consigli, va. Mica voleva andare in Kuwait, esatto, mai che niente ha fatto, va. Quello voleva tornare a Massone a strozzare il ciccione. E poi però l'hanno arrestato, ora in prigione, va. Ne conosco tantissime, esatto, queste storie. Come i peli di un gatto, va. Quando saremo in Kuwait sarai contento di me. Improvvisamente, Canna diede una sterzata violenta per evitare un solco, un buco profondo sulla pista. E da quel momento il camion cominciò, bababam, a sobbalzare, bam, bam, bam, bam, bam, a sussultare come se la strada fosse fatta di scale, e in quel paccano, in quel frastuono, ad esatto parve che da un momento all'altro i suoi intestini fossero lì per schizzare di fuori, e pensò ai altri due sulla cisterna, al vecchio e al ragazzo, ma intanto Canna continuava a parlare. Lo sai che cosa voglio per me, esatto? Bam, bam, bam. Un sacco di soldi, vada bum bam bam, un sacco di grana, vada bum bam bam bam, tanta tantissima tantona, una montagna di grana, e per fare i soldi l'onestà è un impiccio, vada bam bam bam bam bam. Farina, bam bam bam bam, io tra un paio d'anni mi voglio fermare, mi voglio riposare all'ombra di un albero, vada bum, mi voglio pensare, vada bam bam bam, a pensare, vada, anche a non pensare, io non voglio più muovere un dito, va. Ho faticato abbastanza, per Dio, ho faticato più che abbastanza. E senza preavviso, allungò la mano. Spense il motore, lasciò che il camion proseguisse appena per un po', fermò tutto e poi scese a terra. Bene, signori, è il momento di fare sul serio. Adesso vi aprirò il coperchio della cisterna. Lì dentro ci deve essere un caldo come là di là. Si arrampicò per la scaletta, arrivò sul tetto della cisterna e cominciò a trafficare con il malignore ricurvo. Le braccia erano bagnate, la camicia zuppa, fradicia e il volto impiastricciato di fango. Il coperchio si aprì con uno schiocco e Canna lo tirò su finché non fu dritto e fermo sopra la cerniera. All'interno apparve rosso dalla ruggine. Canna si mise a sedere accanto all'apertura con le gambe penzoloni, prese un fazzoletto, si asciugò la fronte e il colle. Signori, toglietevi la camicia, lì dentro il caldo è soffocante, insopportabile, presto suderete come foste in una padella, ma per 5 minuti, 6 minuti al massimo, io poi andrò più veloce di quello che posso. Ah, e ci sono delle sbarre di metallo lì nella cisterna, vi consiglio di aggrapparvici perché sennò ruzzolerete come tante palle. Ah, naturalmente, toglietevi le scarpe. I tre nel frattempo erano scesi dal camion, si erano messi a ascoltare Canna, uno vicino all'altro, a bocca aperta, così Canna cercò di farli ridere, ma lo sapete che, volendo, qui dentro uno si potrebbe anche dormire. Sì, vai, se la temperatura fosse un po' più mite. Signori, non abbiamo tempo da perdere. Adesso siamo le prime ore del giorno, ma fra poco lì dentro si starà come in un forno. Ah, potete portarvi la borraccia con l'acqua. Però attenzione, non bevete quando il camion è fermo, perché sennò vi sento. Il primo a voler dare un'occhiata fu Asad, che arrivò alla scaletta, ci si arrampicò agilmente, portò la testa sopra l'apertura, la cacciò dentro, la tirò fuori e poi disse: questo è l'inferno, ci si squaglia. Anche Marwan voleva dare un'occhiata, arrivò alla scaletta, ci si arrampicò agilmente, portò la testa dentro l'apertura, la tirò fuori e sul suo volto si disegnò un'espressione di terrore, di disgusto. Anche il vecchio voleva dare un'occhiata, arrivò alla scaletta, ci si arrampicò con più fatica, arrivò vicino agli altri, vicino all'apertura, e mentre Asad era lì che continuava a cercare di guardare dentro quel buco nero in cui non si vedeva niente, il vecchio cominciò a tirarsi via la camicia, mostrando un petto con folti peli grigi, due scapole sporgenti, piegò la camicia, la mise con cura sotto il braccio, poi infilò le gambe nell'apertura, gettò dentro la camicia e aiutandosi con le braccia e con le mani cominciò a farsi calare dentro, dritto, lento, finché toccò con i piedi il fondo della cisterna, poi lasciò andare le mani, immerse la testa e scomparve all'interno. E Asad, come va? E da dentro una voce cavernosa: è un pozzo maledetto, venite! Marwan si diresse all'apertura, si tolse la camicia, si girò di spalle, cominciò a far scendere le gambe appoggiandosi con la pancia sul bordo, e poi fece scendere dentro tutto il corpo e le mani, che fino a un attimo prima erano aggrappate saldamente al bordo, scomparvero. Azad raggiunse le altre due, non si era tolto la camicia. Così Canna guardò dentro quel buco nero in cui non si vedeva niente e domandò: comandiamo? E da dentro: comandiamo, parti, metti in moto, stiamo soffocando! Così Canna, senza pensarci due volte, chiuse il coperchio, girò due volte, il maniglione ricurvo, piombò a terra, montò in cabina e prima ancora che la portiera fosse chiusa, già il camion aveva cominciato a divorare la strada. E in quei pochi minuti Canna aveva un solo pensiero nella testa: i buchi, i solchi sulla strada che facevano sussultare il camion avrebbero presto trasformato le uova in una gigantesca frittata umana. Non pensava tanto a Marwan, che era giovane, ad Asad, che era forte, ma al vecchio. Se lo immaginò battere i denti come uno che stesse morendo per il gelo, soltanto con la differenza che di là il gelo non ce n'era. Forse potrei portare al camion alla massima velocità, pensò Canna, ma poi... Se alla massima velocità il camion si fosse ribaltato, non pensava tanto al camion che non era suo, ma ai tre che erano chiusi nella cisterna. Se alla massima velocità il camion si fosse ribaltato e fermato capovolto. Bah, non rallentò Canna arrivando a Safuan, il primo posto di frontiera. Non tirò via al piede dall'acceleratore neanche di un millimetro, entrando nel piazzale sulla sinistra, anzi, fum! Sollevò nuvole di polvere in un ampio cerchio e tirò via il piede dall'acceleratore soltanto quando contemporaneamente diede una brusca frenata. Si piazzò proprio davanti al posto di dogana, scese a terra e schizzò dentro come un fulmine. Fuori il piazzale era ampio, sabbioso. C'era un unico albero gigantesco al centro, le cui foglie lunghe, pendule, proiettavano una larga ombra sul piazzale. Dentro c'erano tanti uffici affollatissimi di gente, sempre indaffarata. Di fuori invece, all'ombra di quell'albero gigantesco, due donne vestite con i mantelli neri, due bimbi vicino a un rubinetto dell'acqua e un usciere che se la dormiva dalla grossa su una vecchia sedia di paglia. Dentro gli uffici qualcuno domandava: Canna ha fretta oggi? E Canna: certo che ho fretta, se non arrivo in tempo il mio capo mi licenzia. Ma dai che non ti licenzia, dove lo trova il tuo capo un giovanotto come te? Ne è pieno il mondo di giovanotti come me, pieno come mosche, pronto a saltarti addosso, disse Canna. E quell'altro: che cosa trasporti oggi, Canna? E Canna: il solito, armi, munizioni, calasnico, bombardieri, missili, elicotteri, F-16, ci riprendiamo la Palestina, non lo sapevi? E quel tipo si fece una bella risata di cuore, questa battuta di Canna, e intanto Canna con destrezza gli sottolineò a Eva di sotto le mani le carte firmate e si precipitava fuori. Andò in un altro ufficio, un minuto dopo era fuori anche di lì, e in un meno di un battere di ciglio già aveva acceso il motore che squam! Squarciò in silenzio riverberante calato su Safuan e si precipitava sulla strada. Boh! Adesso il camion filava come una freccia, sollevando nuvole di polvere che poi si disperdevano nel calore. Canna grondava sudore che tracciava sul suo volto una rete di rivoli che poi confluivano al mento. Boh! L'aria era calda, spessa, piena di polvere, sottile come farina. Canna si sbottonò la camicia e le sue dita toccarono i folti peli del petto bagnato, ma adesso il terreno era piatto. Non c'erano più le buche, non c'erano più i solchi che facevano sobbalzare il camion. Così Canna accelerò e il tachimetro fece un balzo in avanti come un cane bianco legato alla catena. Si profilava davanti, la collinetta dietro la quale Canna avrebbe potuto fermare il camion. Così accelerò di nuovo per non rallentare durante la salita. I muscoli della gamba si grabbravano aggrovigliati, sul punto di spezzarsi. Il terreno volava via, e il motore ruggiva, e il vetro del parabrezza fiammeggiava, e il sudore bruciava gli occhi, ma la benedetta collina da scavallare sembrava non arrivare mai. Dio del cielo, tu che non mi hai mai guardato, tu che non sei mai stato dalla mia parte, tu a cui veramente io non ho mai creduto, sei dalla mia parte almeno questa volta, almeno questa volta. Arrivò alla collina, si sbatté tutto per liberarsi dal sudore, arrivò sul punto più alto, allungò la mano, spense il motore, fermò tutto, aprì la portiera, balzò sul tetto della cisterna. Il primo a venire fuori fu Marwan, che sollevò le braccia e Canna lo tirò su bruscamente e lo lasciò disteso sul dorso della cisterna. Poi fu la volta del vecchio, che tirò fuori la testa, sembrava che volesse uscire da solo, ma che non riusciva. Così tornò dentro con la testa, sollevò le braccia e si lasciò aiutare da Canna. Asad invece riuscì a arrampicarsi da solo attraverso l'apertura. Nel frattempo si era tolto la camicia. Canna era seduto vicino all'apertura, ansimava, sembrava invecchiato di colpo. Intanto il vecchio si era lasciato scivolare sopra le ruote e adesso a terra giaceva bocconi all'ombra del camion. Asad invece rimase per un attimo in piedi, a respirare a pieni polmoni. Sembrava che volesse dire ma qualcosa, ma che non ci riusciva. Alla fine, anzi, fa così freddo qua fuori. Aveva la faccia bagnata, rossa, i pantaloni fradici, il petto macchiato di ruggine. Marwan scendeva le scalette ed era sfinito, anche lui gli occhi rossi, il petto imbrattato di ruggine. A terra andò a posare la sua testa sulle gambe del vecchio, lasciando scivolare le sue all'ombra della ruota, e nessuno parlava. Così fu Cannon a dire la prima cosa. Ma è stato davvero così terribile. Avevano tutti e tre la faccia gialla, mummificata. Se non fosse stato per quei petti che andavano su e giù, davvero sembrava che il vecchio e Marwan fossero morti. E Cannon ci ho messo poco meno di 7 minuti. Guarda l'orologio, controlla Satana l'orologio di Marwan. Ci ho messo poco più di 6 minuti. E sono andato anche più veloce di quanto vi avevo detto all'inizio. Controlla l'orologio. Guarda Marwan, controlla Satana l'orologio di Marwan. Ma nessuno controlla. Asad lo guardò con freddezza, poi il vecchio distolse lo sguardo. Parlò invece Marwan, sollevando la testa e lasciandola leggermente reclinata all'indietro. Ma senti, Cannon, ma tu hai mai provato a stare seduto lì dentro per 6 minuti? Ve l'avevo detto, fin dall'inizio. Che mi succede? Zio, che ti succede? Stai male? E il vecchio, no. Sto respirando la mia razione d'aria. Cannon scrollò dalla sacca i pantaloni, guardò uno per uno i suoi compagni di viaggio, poi disse, signori, non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo ripartire. Fra poco vi spetterà un altro bel bagno turco. Così Abukais, senza pensarci due volte, si alzò, si diresse alla cabina per fare il suo turno all'interno. Asad, con la camicia in mano, andò alla scaletta, ci s'arrampicò per fare il suo turno all'esterno. L'unico invece non voleva muoversi era Marwan. E Cannon gli disse, che fai? Non vieni con noi? E Marwan, non possiamo riposarci, ancora un minuto. Ci riposeremo quando saremo arrivati in Kuwait. Forza, vieni! Questo è Asad dall'orlo della cisterna. Cannon fece una bella risata, gli diede una pacca sulle spalle e disse, vai, vieni anche tu in cabina, Marwan, sei magro, non mi darai fastidio. E così tutti salirono a bordo e partirono. Dam, da, da, da, da, da, da, da, da, mettiti la camicia perché sennò il sole ti farà arrosto. Marwan ti parla con Cannon. Tieni aperto il coperchio, così magari durante la corsa si passa un po' d'aria. Dam, da, da, da, il motore ruggì. E il grande camion, l'autocisterna, cominciò a tracciare nel deserto una linea nebbiosa che si alzava e poi si dissolveva nel calore. Questo piccolo povero mondo si apriva la strada attraverso il deserto proprio come una goccia d'olio pesante su una lamiera di stagno infuocata. Il sole sopra le loro teste era alto, rotondo, incandescente, abbagliante. Nessuno di loro si curava di togliersi il sudore di dosso. Asad, sull'orlo della cisterna, aveva messo la camicia sulla testa, rannicchiato le gambe e si lasciava arrostire dal sole senza opporre resistenza. Marwan in cabina aveva appoggiato la testa su una spalla di Abukais e aveva chiuso gli occhi. Il vecchio invece fissava la strada, stringendo il labbro sotto gli stessi baffi grigi. E intanto il camion divorava la strada mentre nessuno parlava. Forse per la stanchezza, forse perché ognuno era immerso profondamente nei suoi pensieri. Così il camion fendeva la strada, portandosi appresso tutto di loro, il loro passato, il loro presente, i loro sogni, le loro ambizioni, le loro miserie, la loro disperazione. Sembrava che insieme stessero cercando di aprire una porta che dava su un futuro nuovo, del tutto sconosciuto. E il vecchio pensava, forse potremmo dare un'istruzione al ragazzo, forse potremmo comprarci 2 o 3 piantine d'olivo. Forse potremmo anche costruirci un tetto, una casa, tutta per noi. Ma sono vecchio, ce la farò, non ce la farò. E poi sentì una voce dentro di sé, vecchio, ti pare che la vita che stai facendo sia molto meglio della morte? Solleva la tua testa dal cuscino e percorri la strada di Dio in cerca di pane. E tanto il camion divorava la terra infuocata e il motore ruggiva. E con gli occhi chiusi, la testa appoggiata sulla spalla di Bucais, il ragazzo pensava, la povera ragazza storpia, che colpa ne ha lei? Era più che un poco più di una bimba quando una bomba sparata da un mortaio delle truppe ebraiche gli avevano spappolato la gamba, i medici gli avevano amputata fino alla coscia. E papà? La mamma non ne vuole più sentir parlare. Zaccaria mi ha scritto una lettera, vieni Manuel, lascia stare la scuola, che non ti serve a niente, fai come me, fai come tutti, buttati nella padella. Intanto il camion divorava la terra infuocata, il motore ruggiva come un diavolo, e alla guida del camion Cannon pensava, chissà se era stata una bomba che era sepolta nel terreno, quella che è esplosa mentre stavo correndo, o forse me l'ha buttata qualcuno in una trincea di lì vicino, ma tutto questo non ha nessuna importanza. Poi c'era stato quel dolore atroce in mezzo alle gambe, la schiena appoggiata sul morbido, bianco, letto, c'era una donna, si ricordava Cannon in mezzo agli altri medici, ogni volta che ci pensava la sua faccia diventava rossa per la vergogna, tutto per il patriottismo. Una vita passata all'avventura e non sono più capace di fare l'amore con una donna. Ma tutto questo è acqua passata, ora ci sono soltanto i soldi, un sacco di soldi, un sacco di grana. e intanto il camion divorava la terra infuocata, il motore ruggiva forte sull'orlo della cisterna. Azad, con la schiena appoggiata alla cabina, che guardava la strada andarsene, la vita che va. Si ricordò di una volta che era poco più di un bambino e un poliziotto l'aveva portato davanti a un ufficiale. Questo gli aveva detto: ma bravo, il nostro ragazzino, eroe, che si fa portare in spalla da questi somari a fare manifestazioni di protesta qui in città per la fiera del libro. Bravo! Gli aveva sputato in faccia ad Azad e Azad non si era mosso neanche di un millimetro. Per quanto fosse un bambino, poco più di un bambino, aveva lasciato che quel rigagno, l'appiccicatice schifoso di saliva dell'ufficiale, scendesse dalla fronte fino a confluire sulla punta del naso. Poi l'avevano lasciato andare e lui era scappato via. E lo zio: non ci posso pensare, a mia figlia che ti aspetta per essere trasformata. Sistema di ragazzo mio, sistema di amare anche all'inferno, se no ti ritroverai sempre su una strada. E tanto il camion divorava la terra infuocata, il motore ruggiva, sembrava una bocca gigantesca che si mangiava la strada. Il sole, adesso sopra il deserto, disegnava un'ampia cupola di fiamma bianca e la scia di polvere sollevata dalla corsa del camion rifletteva una luce accecante. Ad Azad avevano raccontato che una volta uno dal Kuwait non aveva fatto più ritorno, ma che stava lavorando la terra con la zappa, è morto, è arrivato un colpo di sole, pa! Prima è caduto sulla zappa e poi è caduto per terra, pa! Un colpo di sole, lo seppelliamo qua, lo seppelliamo là. Un colpo di sole, chissà che ha inventato questo termine, un genio. Adesso il deserto era un gigante che rovesciava sulle loro teste fuste di fuoco, di pece bollente, e i pensieri dell'uno con quel calore passavano nella testa dell'altro, perché erano gli stessi pensieri. Così a un certo punto i loro sguardi si incrociarono, Canna guardò il ragazzo e poi a bocca ischia lo stava fissando. Provò a sorridere Canna, ma non ci riuscì. Così prese il fazzoletto, si asciugò il sudore sulla fronte, sul collo, e poi disse: zio, va! Hai mai sentito parlare dell'inferno di Dio? E il vecchio: no? Va! E questo? Va! Questo è quello che viene chiamato l'inferno di Dio. E senza preavviso allungò la mano, spense il motore, fermò il camion e lentamente scese a terra, seguito dal vecchio e dal ragazzo. Canna si accese una sigaretta e poi si mise a sedere all'ombra di una nuota e disse: signori, adesso ci riposiamo un momentino prima di ricominciare lo spettacolo. Tutti guardavano i propri pensieri davanti a sé o per terra, e fu il vecchio a fare la prima domanda: senti Canna, perché non siamo partiti ieri sera, quel fresco della notte? E senza alzare lo sguardo da terra, Canna gli disse: ma perché? Perché di notte la strada fra le due frontiere è piena così di pattuglia, invece durante il giorno non c'è nessuno per via del caldo. E Marwan: senti Canna, ma visto che il tuo camion non viene mai perquisito, ma perché non facciamo il viaggio di fuori invece che dentro quella prigione maledetta, infernale? Non fare l'imbecille, Marwan! Hai così tanta paura di passare lì dentro 6 minuti? Forza! Abbiamo fatto più di metà della strada. Adesso rimane la parte più facile. Si alzò in piedi, andò alla portiera, prese una borraccia, la stappò e fece un brindisi. Signori, io vi faccio una promessa. E quando arriveremo in Kuwait, io vi offrirò il pranzo. Farò ammazzare due belle galline. Poi si portò l'acqua e la borraccia alla bocca e cominciò a scolarsela, tanto che due rivoli d'acqua uscirono dagli angoli della bocca. Poi quando si fu dissetato, si bagnò la testa, il collo, il petto, la nuca, richiuse la borraccia, l'appese sulla portiera, tornò lì. Signori, avete imparato il mestiere. Guardate all'orologio, che ore sono? Le 11:30. Guarda, Azad, controlla l'orologio di Marwan. Guarda, Marwan. 6 minuti, 7 minuti al massimo, e io vi aprirò il coperchio. Guarda, Marwan, guarda l'orologio. Le 11:30. Marwan diede un'occhiata all'orologio, provò a dire qualcosa, ma non ci riuscì. Così si alzò in piedi, con la camicia in mano, si diresse alla scaletta, cominciò ad arrampicarsi. Anche Azad, con la camicia in mano, andò alla scaletta e seguì il ragazzo. Invece il vecchio rimase lì, scuotendo la testa. 7 minuti! Canna, al massimo! Si diedero l'ultima occhiata, nessuno dei due aveva voglia di dire nient'altro. Canna gli diede una bacchetta sulla schiena, il vecchio si diresse alla scaletta, ci si arrampicò. E quando immerse le gambe, gli altri due dall'interno lo aiutarono a scendere. Senza pensarci due volte, Canna si portò sul tetto, chiuse il coperchio, fece tirare due volte il manino di curva, piombò a terra, montò in cabina e 1 minuto e mezzo dopo stava già facendo attraversare l'enorme autocisterna il grande cancello aperto nel filo spinato, tutto teso intorno al posto di guardia di Mutla, la frontiera con il Kuwait. Canna arrivò a fermare il camion proprio vicino ai 3 gradini larghi che davano accesso a un edificio basso di mattoni. Fuori c'erano dei carretti con varie cibarie, c'erano 2 automobili posteggiate, ci sentiva il ronzio dei condizionatori d'aria. C'era un solo uomo di guardia in una garitta di legno a fianco ai gradini, a parte questo ronzio Il silenzio era assoluto, pesante. Canna schizzò all'interno, terza porta a destra, in fondo al corridoio, ma quando aprì la porta, capì dalle facce dei tre funzionari che erano nell'ufficio che qualcosa sarebbe successo. Ma senza esitazioni, appoggiò le carte da firmare proprio su una scrivania davanti a un funzionario ciccione che stava seduto lì dietro. Ma guarda che si vede! Carneta, disse il ciccione, senza badare alle carte, anzi incrociando le braccia sul tavolo di metallo. Ma dove sei stato? Carneta, tutto questo tempo. E Canna, anzi Mante, abbassala! Ma sai che il tuo capo, Carneta, ha chiesto di te varie volte? E Canna, il camion era rotto, i tre nell'ufficio si guardarono e cominciarono a ridere. E Canna, rivolto al ciccione che gli stava davanti, gli disse: cosa avete da ridere stamattina? I tre si guardarono ancora e di nuovo giù a ridere. Sempre rivolto al ciccione, spingendogli contro il petto le carte, disse: per favore fammi andare, che ho fretta. Ma ciccione niente, rispinse le carte al mittente, di nuovo incrociò le braccia. Ma sai, Cannetta, che il tuo capo ha chiesto di te 6 volte almeno? Ma te l'ho detto, il camion era rotto, col mio capo io me la intenderò, adesso fammi andare. Il tuo camion era rotto, Cannetta? Sì, per favore, le carte. Allungò di nuovo le carte e i tre scoppiarono di nuovo a ridere. Ma nessuno di loro aveva niente da fare. Uno aveva il tavolo completamente sgombro, c'era solamente un bicchierino di tè colmo fino all'orlo. L'altro aveva finito di lavorare e stava anche lui con le braccia incrociate per vedere quello che sarebbe successo. E così il ciccione ruttò. E mentre ruttava disse: allora Canna, perché non ti calmi? Cos'è tutta questa fretta? Vieni qua, goditi di questo momento. Vuoi che ti facciamo portare un bicchierino di tè? Ah, c'è il sole condizionatore, si sta al fresco, qui fuori c'è un tempo maledetto. Canna prese le carte, la penna che stava davanti al ciccione, fece il giro della scrivania, si portò a fianco del ciccione con le carte e la penna sotto il naso, facendo pressione con il braccio sulla spalla di lui. Senti, io passerò anche un'ora volentieri con voi la prossima volta a parlare, ma adesso dai, fammi andare, che ho fretta. Il ciccione non si mosse neanche di un centimetro, continuò a guardarlo con gli occhi da ebete, come se fosse sul punto di scoppiare a ridere ancora. Ma guarda che sei veramente una canaglia, Cannetta. Perché non ti ricordi che hai fretta quando sei a passera? Ma te l'ho detto, il camion era in officina, non dire bugie, Cannetta. E il tuo capo ci ha raccontato tutto, dalla A alla Z. Ma cosa mi ha raccontato? Che cosa mi ha detto? Adesso la faccia di Canna era bianca, terrorizzata dalla paura, la penna nella mano cominciava a tremare. Ma sì, Cannetta! La storia della ballerina, come ha detto il suo capo, che si chiama? Chi si ricorda? Cannetta, sei veramente un disgraziato. E Canna, ma quale ballerina? Di cosa stai parlando? Fammi andare, che il camion, se no il capo mi licenzia. Niente affatto, disse il ciccione. Adesso ci devi raccontare di tutto. Vieni qua, dici che il camion è rotto, poi vai a commettere i 7 peccati capitali, a passare con una ballerina, come chiama. E niente, adesso la voce del ciccione è tua, no? E lui si alzò, si mise proprio dal centro della stanza e disse: veramente disgraziato, vieni qua, fai tutta la persona per bene e poi vai a passare le notti più felici del mondo a passare con una ballerina, sei veramente un disgraziato, Cannetta. Il tuo capo ha detto che lei ti ama, che ti paga il pranzo e che ti riempie di soldini, che ti scrive delle letterine. Ma come? Gli si avvicinò con la faccia grondante sudore e quasi in un sussurro gli disse: ma dimmi la verità, è che è qualcosa di speciale lì in mezzo alle gambe, anche se è rimasto l'unico uomo sulla piazza. E Canna, con un risolino isterico, gli disse: sì. Gli accostò le carte e la penna al petto e ciccione, quasi sopra pensiero, si mise a firmarle senza pensarci. Ma quando furono pronte, Canna fece il gesto di recuperare le carte, ma quello le mise dietro la schiena, tenendo a bada Canna con l'altra mano. No, adesso ci devi fare una promessa. Ci devi promettere che quando tornerai a Bassola ci porti con te, perché noi vogliamo conoscere la ballerina. Va bene, però lo faccio, lo prometto. No, ce lo devi giurare, Cannetta. Ci devi giurare che quando tornerai a Bassola ci porterai con te, perché noi vogliamo conoscere questa benedetta. Va bene, lo giuro. E schizzò fuori con le carte firmate. Canna, invece, il ciccione tornò a sedersi ancora ridacchiando. Arrivò in un altro ufficio con le carte firmate, guardò l'orologio, Canna, le mezzogiorno meno un quarto. Un minuto dopo era fuori anche di lì, andò all'esterno, una frustata di calore lo investì, non se ne curò, arrivò davanti al camion, guardò l'autocisterna, sembrava che il metallo stesse per fondere sotto quel sole incandescente. Arrivò in cabina, fece partire il motore, l'anche partì al primo colpo e si diresse alla massima velocità possibile fuori dal posto di mutola. A un certo punto dovette rallentare perché arrivò un altro camion nell'altra direzione, ma poi di nuovo alla massima velocità possibile, un minuto. Un minuto e mezzo dopo avrebbe superato la curva dietro la quale il camion non sarebbe più stato visibile dal posto di frontiera, per cui accelerò, arrivò alla curva, fece fischiare i copertoni, addirittura rischiò di portare il camion fuori di strada, sembrava che le ruote stessero sbucciando l'asfalto e intanto il volante scottava. Il sedile sotto il suo culo bruciava e lui pensava al ciccione, maledetto bastardo, maledetto sia tu, tuo padre, tuo nonno, tutti quei antenati e anche quel porco del mio capo, maledetto bugiardo, che quel dio onnipotente, che non esiste, che maledico tutto, boh! E fermò il camion, spense il motore, fermò tutto, scese a terra, piombò sul tetto della cisterna che era incandescente, le sue mani andarono a prendere il maniglione ricurvo, ma dopo un attimo dovettero mollare la presa perché le mani bruciavano. Allora si accostò con i ginocchi contro la cisterna e con i gomiti protetti dai lembi delle maniche si sforzò di far girare il coperchio che si aprì con uno scoppio. Pow! Il coperchio balzò su finché non fu dritto fermo sulla cerniera. Mollato il coperchio, Canna guardò l'orologio. Mezzogiorno meno nove. Sporse la testa sul buco, una goccia di sudore cadde dalla fronte, finì sul tetto della cisterna e sparì. Rialza. Azar! Azar! La sua voce rimbombò all'interno, tanto da tornargli potente, da fracassargli i timpani. Così facendo leva con le braccia, con le mani, si fece calare all'interno, era buio, un buio totale, ma quando si discostò da sotto l'apertura, un cerchio di luce gialla andò ad illuminare sul fondo un petto coperto di folti peli grigi che splendeva come una lamiera di stagno. Si piegò su quel corpo, che però completamente irrigidito non dava segni di vita. Allora si spostò in un'altra parte della cisterna e trovò delle mani avvinghiate ad una sbarra di metallo, cercò una testa, trovò delle spalle bagnate, poi una faccia e una bocca aperta, spalancata. Non respirava più Canna, e sudava, grondava sudore, si sentiva ricoperto da uno strato d'olio spesso così e tremava, per cui si piegò, cercò di annaspare verso l'uscita, quando a un certo punto gli parve di trovarsi di fronte alla faccia di Marwan, che lo guardava e che non se ne andava. Anche quando Canna riuscì a tirarsi fuori dalla cisterna, la faccia di Marwan era sempre lì. Sembrava che la faccia di Marwan si fosse impossessata dalla sua mente. Uscì fuori, chiuse il coperchio, scese a terra, montò in cabina. Ram! Ram! Il motore non partì al primo colpo. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. E da quel momento il camion cominciò a avviarsi lento e maestoso per la discesa. Era calata la notte e Canna si diresse con l'autocisterna fuori dalla città addormentata. I lampioni che il camion si lasciava due lati della strada presto avrebbero lasciato il posto al buio. Non c'era la luna quella notte e i margini del deserto sarebbero stati muti come la morte. Imboccò una pista sabbiosa verso l'interno. Da mezzogiorno aveva deciso di scavare tre tombe, però adesso si sentiva stanco, come se gli avessero iniettato un narcotico, non ce l'avrebbe fatta a scavare tre tombe. Però i corpi dei compagni non potevano andare perduti, lasciati così nel deserto. E intanto il camion continuava ad arraccare sulla pista sabbiosa, facendo come un lamento. E Canna continuava a pensare, più che a pensare, una schiera di immagini sconnesse popolava la sua mente. A un certo punto arrivò una brezza che si portò appresso odore di marcio, di putrefazione. Canna pensò, qui c'è una discarica. Se cerco quei corpi, domattina qualcuno li vedrà e ci penseranno le autorità a seppellirli. Così girò il volante e si mise a seguire delle tracce che altre ruote avevano lasciato sulla pista prima di lui. Spense i fari, lasciò solo le luci di posizione. Poi cominciarono a comparire i neri cumuli di immondizia e allora spense tutto. Il puzzo riempiva l'aria, ma ci si abituò presto. Fermò il cambio e scese a terra. Rimase per qualche istante accanto alla cisterna, guardandosi attorno. Poi salì per la scaletta, arrivò sul tetto della cisterna, che adesso era fredda, umida, aprì il coperchio e si calò all'interno. Il primo cadavere se lo caricò sulle spalle. Fece passare fuori prima la testa, poi le gambe. E sentì un sacco pesante cadere in un tonfo sulla sabbia. Fu molto difficile staccare le mani del secondo cadavere che erano avvinghiato una sbarra di metallo, ma poi se lo caricò sulle spalle, fece passare fuori prima la testa, poi le gambe, secondo tocco sulla sabbia. Per il terzo cadavere fu tutto più facile. Uscì dalla cisterna, chiusi lentamente i coperchi e scese a terra per la scaletta. Era buio, buio totale, e si sentì sollevato perché così non doveva guardarli in faccia. Li trascinò a uno per i piedi, là dove finiva la strada, dove di solito si fermavano i camion con l'immondizia, in modo che il giorno dopo il primo autista li avrebbe visti. Poi ritornò a bordo, accese il motore e tornò in retromarcia, sforzandosi di seguire con le ruote dell'autocisterna le tracce che c'erano. Aveva pensato di fare così fino alla strada principale in modo da confondere le sue tracce. Ma fatto un breve tratto di strada, gli venne in mente qualcosa. Fermò il camion, scese a terra, tornò là dove aveva lasciato i cadaveri, prese i soldi dalle loro tasche, tolse l'orologio dal polso di Marwan e poi tornò sui suoi passi fino al camion, camminando sui bordi delle suole. Arrivò alla portiera, l'aprì, stava per alzare la gamba, quando gli venne un pensiero improvviso. Restò fermo, cercando di dire, di fare qualcosa, pensò di gridare, ma si accorse subito che era una cosa stupida. La stanchezza cominciava a salire, non si sentiva la forza di montare in cabina. La testa sembrava che gli stesse scoppiando. Allora se la prese tra le mani, cominciò a tirarsi i capelli per cacciare l'idea. Ma non se ne andava, era sempre lì, presente, grande, risonante, immensa, incrollabile, evidente. Provò a guardare la sui cadaveri, ma era buio, non si vedeva. Così con quella sbirciatina l'idea divampò nella sua testa. Allora lasciò cadere le mani lungo i fianchi e si mise a fissare le tenebre. Perché non avete battuto sulle pareti della cisterna? Montò in cabina, poggiò la testa sul volante. Perché non avete battuto sulle pareti della cisterna? Perché non avete chiamato? Perché? E da quel momento il deserto si cominciò a rimandargli la voce, a fargli da eco. Perché non avete battuto sulle pareti della cisterna? Perché non avete battuto sulle pareti della cisterna? Perché? Perché? Perché? Lo spettacolo Ingannati, storia palestinese, racconto di immigrazione, di e con Nicola Pannelli. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Ascanio Celestini per presentare il suo spettacolo Rumba, l'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato a Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, 16 e 17 novembre 2023. Ben trovato Ascanio. Ben trovati. Cos'è questo lavoro? È la terza parte di una trilogia che ho cominciato nel 2015 con lo spettacolo Laica. E due anni più tardi, nel 2017, ho portato in scena Pueblo e poi adesso stiamo cercando di chiudere insomma questa trilogia. Dico stiamo cercando di chiuderla nel senso che in scena sto io e un musicista, Gianluca Casadei, che appunto ci ha accompagnato insomma anche nelle due tappe precedenti, e alla console, insomma al mixer c'è Andrea Pesce. Tutti e tre questi spettacoli hanno due personaggi che ritroviamo insomma sempre, che sono due che vivono nello stesso appartamento, nello stesso monolocale, che appunto siamo io e Gianluca, il musicista. Quello che racconta la storia sono io, il musicista partecipa ogni tanto con qualche battuta che sia negli spettacoli precedenti che in questo è sostanzialmente in playback. Insomma. Il luogo nel quale si svolgono tutte e tre queste storie è una porzione, una periferia che io immagino a Roma, ma può stare più o meno in qualsiasi città, almeno occidentale. Una periferia nella quale quest'angolo c'è un parcheggio, un supermercato, un magazzino dove lavorano soprattutto facchini africani, il condominio dove vivono questi due personaggi e altri, è un bar. In questo spicchio di periferia i personaggi sono una prostituta, due barboni, uno zingaro, la cassiera del supermercato, una vecchia pensionata, un'altra con la Steiner, insomma tutte persone che non entreranno mai nella storia, che se qualcuno le menziona nella cronaca nera casomai. E in questi tre racconti appunto si parla di questa periferia. Nel primo, Laika, il personaggio narrante, che interpreto io, racconta quello che ha visto. Nella seconda parte, Pueblo, racconta quello che immagina, perché non possiamo vedere tutto e quindi dobbiamo fare anche lo sforzo di immaginarci la vita degli altri. In questa terza parte, Rumba, invece due personaggi, due coinquilini di questo monolocale, finalmente scendono nel piazzale, nel parcheggio, e in qualche maniera, invece di raccontarlo, questo parcheggio lo vivono, e lo vivono insieme ai personaggi che normalmente lo attraversano. Era partito da subito come progetto di trilogia? In realtà no, nel senso che io ho debuttato con Laika appunto nel 2015, poi l'anno dopo ho incominciato a lavorare con un attore francofono, belga, che voleva mettere in scena appunto Laika. Contemporaneamente abbiamo fatto un progetto tra il Belgio e la Francia, tra Bruxelles e Parigi, ed eravamo io, il musicista con il quale lavoro, appunto Gianluca Casatei, un traduttore in scena, Patrick Petit, e un'attrice francese che si chiama Violette Pallarot. Ed era uno spettacolo un po' strano, perché era un po' in italiano tradotto, c'era la musica, c'era l'attrice che parlava in francese, e mentre facevo la regia con l'attore francofono e scrivevo il testo per me e per l'attrice francese, in qualche modo entrati uno nell'altro, e quindi questo spettacolo l'abbiamo fatto in Francia, che al tempo si chiamava Paesamento, è di fatto stato la parte per la seconda parte del Pueblo. E visto che durante queste prove io scrivevo tanti racconti, ho pensato che in fondo potesse essere una trilogia, ma intesa più come un po' un arcipelago, le storie che stanno in ognuno di questi tre capitoli in realtà possono essere tranquillamente rimescolate, insomma una parte delle storie del primo possono finire nel terzo, una parte delle storie del terzo nel secondo, perché sono veramente un po' tanti capitoli, tante isole di un arcipelago, diciamo così. Qual è l'umanità e le pulsioni che esprime la tua periferia? È un'umanità che a me interessa per tanti motivi. Prima cosa perché non credo che il presidente del consiglio d'amministrazione di una multinazionale sia meno umano di un detenuto, di una prostituta o di un barbone. È che nella condizione di difficoltà, insomma, in qualche maniera di nudità proprio, io una persona povera, messa all'angolo, insomma, in questa nudità sia più facile vedere l'essere umano. Appunto un ricco, benestante presidente di una grande azienda multinazionale mostra di sé un po' quello che vuole, insomma, si maschera facilmente, si mostra per come vorrebbe essere, diciamo così. È un detenuto che sta 22 ore su 24 chiuso in cella, in una cella per due persone insieme ad altre quattro, c'ha poco da mascherarsi, insomma. E poi Brecht scriveva: c'è chi vive sotto la luce e chi vive al buio. Compito dello scrittore è illuminare chi vive al buio, insomma. E visto che appunto queste persone che vivono in una situazione di marginalità, la loro umanità anche viene a galla, viene illuminata solo quando succede qualcosa di violento e eclatante, vale la pena invece farli a cercare, insomma, quando ancora la violenza non gli ha acceso un riflettore addosso. Lo spettacolo Rumba, l'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato, a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, 16 e 17 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore, attore Ascanio Celestini. A presto! A presto, grazie tante! Con Antonino Pirillo, co-direttore di Sempre più fuori, Autoritratti, festival multidisciplinare di teatro, musica, danza, cinema, letteratura, a Roma dal 6 al 30 novembre 2023. Ben trovato. Ciao Federico, ben trovati tutte e tutti. Cos'è questa creatura? Questa creatura è alla sua prima edizione dello spin-off autunnale di Sempre più fuori, che è una rassegna che abbiamo fatto per i primi tre anni nel municipio 5 in collegamento col teatro Biblioteca Quarticciolo, e invece dall'estate scorsa l'abbiamo trasferita nel municipio 2 in due bellissime location, al Getty Institute e a Villa Massimo, che sono insomma istituti di cultura tedesca. E invece Autoritratti, proprio come spin-off invernale, l'abbiamo pensato sotto forma di autoritratti, per cui ci saranno incontri dove verranno ripercorse le carriere di alcuni artisti, per esempio Catrippaso intervisterà Isala Nera. Invece abbiamo iniziato con Daria De Florian, che ha intervistato Rossella Menna, l'autrice del libro su se stesso, per cui abbiamo un po' ribaltato la situazione facendo chiedere a Daria delle curiosità sul libro che invece racconta il suo percorso artistico. Poi avremo tre lezioni magistrali in tre cattedre diverse della Sapienza e avremo ospite Fabiana Iacostilli, Giuseppe Ferracchiati e Paola Dimitri. È un focus pensato proprio in occasione dei 100 anni della nascita di Italo Calvino, con tre serate, una affidata a Gioia Salvatori e Andrea Cosentino e le altre due ai giovanissimi Martina Badiluzzi e Giovanni Onorato. Faremo poi vedere il film su Romeo Castellucci, appunto Teatron, che è stato realizzato dal regista Giulio Boato, e ci sarà tutto un percorso dedicato all'accessibilità, per cui Piattarella, che è un coreografo disabile, farà un laboratorio al Goethe e faremo in collegamento con Biblioteca Sapienza due audiolibri per studenti e studentesse proprio del corso di storia del teatro. E a chiudere poi il cerchio un DJ set con due artisti internazionali che sono Marco Inkodievic e Luca Coslovati. Marco è vincitore del premio Roma presso proprio Villa Massimo. Com'è stata la scelta artistica? Più che altro abbiamo provato a fotografare i linguaggi e gli artisti che sono più rappresentativi. Ovviamente non sono tutti, non abbiamo la presunzione di aver scelto gli unici, però continueremo anche l'anno prossimo. Per esempio Daria De Florian rappresenta per la carriera artistica un unicum, perché lei è andata fino in fondo portando avanti un linguaggio, una ricerca artistica che è emersa quando lei aveva 50 anni, per cui è un esempio per gli artisti che si affacciano insomma al mondo del teatro, comunque delle arti performative, ma anche a chi organizza, chi fa delle programmazioni. Non bisogna avere fretta di avere insomma quei risultati e quella riconoscenza tra virgolette veloce, perché le carriere vere sono quelle che si costruiscono man mano. E questa cosa è successa con Fabiana Iacostilli, che per esempio sarà con una trilogia a Roma Europa e quindi andrà a raccontare sotto forma di autoritratto la sua storia professionale in una classe dell'Università Sapienza. La prima edizione, la versione autunno-inverno, proseguirà anche nel prossimo futuro? Sì, sì, perché abbiamo vinto il bando Cultura in Movimento del Comune di Roma, che è biennale, per cui anche l'anno prossimo saremo sempre più fuori autoritratti. E adesso stiamo lavorando invece alla versione estiva, ma non posso anticiparti tutto, anzi niente. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? www.semprepiufuori.it, abbiamo anche la pagina Instagram e Facebook che si chiamano Sempre Più Fuori. Quindi grazie Federico e ti aspettiamo, vi aspettiamo. Con Chiara Crupi, direttrice artistica di AIQ, Festival di Arti Effimere a Roma, Tor Bella Monaca, dal 17 al 26 novembre 2023, ben trovata. Ben trovato e grazie, grazie. Cos'è? AIQ è appunto un festival di arti effimere. Quando parliamo di arti effimere parliamo di sensazione, di emozione, di tutto ciò che provoca appunto emozioni intense e soprattutto lo fa in maniera estemporanea, quindi il Colatino Underground continua a portare nelle periferie di nuovo il circo, la street art e questa volta anche poesia e stupore e meraviglia itinerante, quindi siamo sempre più convinti che sia molto importante andare nei luoghi, nelle strade e andare proprio dal pubblico, dalla gente. E quindi cerchiamo appunto di essere più itineranti possibili e di appunto creare suggestione. È proprio quello che vogliamo fare con questo festival, che è una nuova produzione sempre in periferia, questa volta siamo ancora più fuori dal centro. Ci troviamo proprio fra Torbella Monaca, Torre Angela, e AIQ prevede, oltre a una serie appunto di interventi itineranti che portano fiabe metropolitane, poesie di strada, 5 laboratori che sono già partiti e che stanno avendo grande successo. Quindi c'è il laboratorio Nonno Nipote, per esempio, tenuto da Guglielmo Mazzellano Bartoli, il laboratorio di street art, e ora oggi siamo qui a Parco Galimera, Torre Angela, dove i nostri artisti hanno realizzato un murale grandissimo dedicato alle tartarughe che sono state purtroppo seviziate in questo parco. E poi abbiamo un laboratorio, per esempio, di comunicazione, comunicare la periferia, un laboratorio di videomaker tenuto dal Centro Internazionale Prosevia, che porterà proprio alla realizzazione di un film sulla street art delle torri, in collaborazione con Coloronda, questo collettivo che ha riempito di murale Torbella Monaca, facendolo diventare proprio un museo a cielo aperto. E oltre ai laboratori andiamo poi nel cuore di AIQ, che sarà dal 17 al 26 di novembre all'interno, anzi sotto la cupola di un tendone da circo, che verrà montato al Parco della Pace nel cuore di Torbella Monaca e che presenterà 10 giorni di spettacolo di circo, teatro e tanta tanta poesia. Quanti sono gli eventi e com'è stata la scelta artistica? Gli eventi sono tanti e li trovate tutti sul sito del collatinounderground.eu. Il programma è molto molto ricco, la scelta è stata basata su quello che è proprio la suggestione, l'emozione, la capacità di creare entusiasmo, meraviglia negli occhi di tutti. Questa è la cosa anche molto importante per il Collatino, per noi che continuiamo a proporre questi eventi. Tengo a dire che sì, magari io sono la direttrice artistica, ma in realtà poi c'è un cuore, che è il cuore del collettivo del Collatino Underground, che rimane pulsante e che rimane proprio collettivo. Quindi insomma, la scelta degli artisti, la scelta delle suggestioni è sempre collettiva, ci teniamo molto a questo punto. E appunto lo stupore e la meraviglia sono state proprio la, come dire, il leitmotiv di questo evento, che è completamente nuovo per il Collatino. E quindi avremo non solo per la prima volta a Roma, apre le scene il Circo Madera, questa compagnia molto molto nota in Italia, ma perché appunto realizzano degli spettacoli bellissimi di circo, di cabaret, e lo faranno portando il Gran Cabaret Esterus per la prima volta a Roma il 17 e il 18 novembre. Il 19 novembre invece abbiamo Andrea Rivera, che insomma già abbiamo incontrato nella sua carriera artistica, che porterà Qualcuno M'aiuti, quindi non solo circo, non solo poesia, non solo street art, ma torniamo anche al teatro, che comunque è una delle nostre passioni. Avremo poi appunto il Teatro delle Ombre di Silvio Gioia con Bandita, abbiamo il Teatro di Cartapesta e tanti laboratori sulla cartapesta realizzati dal maestro cartapestaio Roberto Capone. E non so se vuoi, avremo le fiabe metropolitane della compagnia Mazzellano Bartoli e di Costantino Puzzi, immancabile come in tutti i nostri appuntamenti la presenza di Ressa e Mastrella, in questo caso Antonio Ressa all'interno dello Stabilito il 23 di novembre presenterà Il Cristo in Gola, la sua ultima produzione cinematografica. Il 24 novembre non possiamo non ricordare l'appuntamento con La Rampa Prenestina e Aspettando Boh, lo spettacolo teatrale che è stato creato all'interno del Campo Rom di Villa Cordiani. E poi ancora tanto circo, col Duo Padella, col Circo Invalido di Gianluigi Capone. Inoltre, all'interno del tendone da circo, il 21, il 22 e il 23, insomma le giornate del lunedì, martedì, mercoledì, ci saranno in residenza gli artisti romani, artisti esistenti, che praticamente proveranno i loro ultimi spettacoli. Per cui è un programma ricco che cerchiamo di rendere proprio adeguato al pubblico di tutte le età. Questo per noi è tanto importante, un programma che questa volta sì ha più parole, ma comunque rimane sempre, diciamo, la nostra attenzione è a usare meno parole possibili in realtà, quindi tante opere sono mute, sono mute, quindi non ci sono parole, ma utilizziamo il linguaggio della suggestione, è proprio quello che ci interessa. E poi tanta street art, quindi il collettivo di giovani nella new entry del Collatino Underground, con questi giovani artisti che, devo dire, ogni volta riescono a disegnare il panorama urbano con le loro suggestioni, e questo ci rende proprio felici. Anche questa volta tutta la grafica e tutta l'estetica della manifestazione è proprio curata da questi giovanissimi street street artist, ma anche grafici, videomaker che hanno proprio, che curano la grafica, per cui, e hanno soprattutto dai 18 ai 23 anni, e questo per noi è importantissimo. AIKU, Festival di Arti Effimere a Roma, Tor Bella Monaca, dal 17 al 26 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Chiara Crupi. Alla prossima! Grazie Federico, grazie mille. Alla prossima! Con l'autore, attore Daniele Parisi, per presentare il suo spettacolo A volte Maria, a volte la pioggia. A Roma, Teatro Basilica, dal 14 al 19 novembre 2023. Ben trovato. Eccolo, eccolo. Buonasera, buonasera. E mi sto accingendo a fare le prove. Quindi mi hai chiamato proprio prima che io iniziassi a ripassare la memoria di questo nuovo spettacolo, che devo dire la verità è lunghissimo. È lunghissimo. Io non ho mai recitato così tanto, è un fiume di parole, 55 minuti serratissimi che devo assolutamente ricordarmi in tutti i modi con gli evidenziatori, quei pezzettini di carta sparsi nella scena, insomma, ecco. Come viene fuori? Questo è uno spettacolo dove per la prima volta tolgo la quinta. Io spesso negli altri spettacoli utilizzavo un separato dove facevo diversi personaggi, e stavolta non c'è più nulla, c'è soltanto la mia storica con cui faccio i rumori dal vivo, e c'è la vicenda di quest'uomo che si trova in bilico tra la vita e la morte, e quindi sono per la prima volta con le mie cose a nudo, senza orpelli, senza parrucche, senza personaggi, ce n'è uno soltanto che racconta questa storia. E che storia è? È una storia che ci porta in una strada di campagna dove piove, e all'improvviso la macchina comincia a slittare, come spesso succede nei momenti più difficili della nostra vita, ripercorriamo delle cose importanti. Il dramma è che Dario, personaggio di questa storia, di cose importanti non ce ne ha tante, e quindi cerca di pontificare sul poco che ha, cercando di innalzarlo e cercando di anche lui fare una bella figura davanti a una morte che potrebbe avvicinarsi e arrivare da un momento all'altro. È in continuità con i tuoi lavori precedenti, a parte la discontinuità della durata? Beh, assolutamente sì, nel senso che la strada è sempre un po' la stessa, soltanto che si riduce all'osso, ecco, è un lavoro a togliere. Il prossimo spettacolo sarò immobile, credo, probabilmente, insomma, però ecco, l'idea è sempre un po' quella di unire diversi stili e metterli insieme, creare una sorta di teatro ibrido in cui c'è il teatro di prosa, in cui c'è il teatro comico, la performance vocale e la comicità, to cure, intesa sia appunto come teatro comico ma anche come cabaret, nel senso di momenti pensati proprio per il pubblico, e come faceva nell'antichità qualcuno prima di noi, insomma, che diceva ok, adesso siamo stati molto drammatici, cerchiamo di essere un pochino più leggeri adesso, ecco. Mischiare i generi e dare vita a un quadro che metta dentro cose diverse. Per questa mescolanza hai seguito anche alcune suggestioni? Devo dire la verità, ultimamente alcuni miei colleghi attori mi hanno fatto leggere la drammaturgia inglese, perché mi hanno detto guarda che questa idea di teatro ibrido in Europa si sta sviluppando tantissimo, anche in Spagna lo stanno teorizzando tantissimo, e sai, tu in qualche modo, no, un po' già lo fai da un po' di tempo, sarebbe bello se tu raccontassi una storia lunga, mentre negli altri spettacoli erano tante diverse storie unite insieme, forse il paragarro meno, ma comunque insomma più o meno, anche lì c'erano tanti personaggi che raccontano la propria storia. Sarebbe bello se tu riuscissi a raccontarne una lunga, una intera, di un personaggio solo. Questa è la sfida. Lunga è anche la tenitura rispetto al passato. Sì, perché sono sei serate in questo teatro bellissimo che è il Teatro Basilica, dove io da ragazzino vedevo i miei primi spettacoli, e quindi insomma per me è sempre una grande emozione recitare in quel teatro lì, perché insomma mi ricorda un po' il me ragazzino di 15-16 anni che sognavo di fare un attore, quindi andare lì a fare uno spettacolo mio nuovo per sei serate a Roma, insomma è una cosa meravigliosa. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Un Daniele Parisi, che è la mia pagina Instagram dove potete vedere tutte le informazioni, oppure sul sito del Teatro Basilica dove si possono comprare online i biglietti. Lo spettacolo A volte Maria, A volte la pioggia, a Roma, Teatro Basilica, dal 14 al 19 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Daniele Parisi. Alla prossima! Grazie. Alla prossima! Con Alessandra Lanciotti, direttrice artistica della 10ª edizione della rassegna internazionale di Circo Teatro Battiti. A Roma, Teatro Furio Camillo, dal 3 novembre al 2 dicembre 2023. Ben trovata. Buongiorno a tutti. Ce la racconti? La rassegna è sopravvissuta a tutte le vicissitudini di questi ultimi anni, è cresciuta e siamo felicissimi perché come sempre ci sono ospiti da tutta Italia e anche dal resto del mondo. Nello specifico ci sono due spettacoli di artisti che vengono, uno dall'est Europa e Argentina, che è Davai, che è uno spettacolo comico, acrobatico, folle, e l'altro che è un spettacolo di un artista spagnolo di origine siciliana che racconta una storia molto toccante di posti che insomma sono in questo periodo molto travagliati. E per il resto, come sempre, ci sono laboratori, spettacoli per bambini, abbiamo cercato il più possibile diversificare le proposte in modo da incontrare i gusti di tutti quanti. Com'è stata la scelta artistica? La cosa che ci piace molto è andare in giro, vedere spettacoli, incontrare gli artisti, farci emozionare e quindi poi coinvolgerli quando possibile nella rassegna. E quindi abbiamo un po' girato per l'Italia nei vari festival e ci siamo fatti coinvolgere da artisti differenti. Come dicevo, abbiamo cercato di proporre tecniche diverse di circo, ma anche storie diverse, di andare dal comico al drammatico e di coinvolgere tutti i tipi di pubblico. Poi, come sempre, la domenica mattina ci sono gli spettacoli per i bambini, che ormai sono una tradizione anche nella rassegna, che si chiama Piccoli Battiti. Quanti sono gli spettacoli e come saranno articolati nelle giornate? Il fine settimana, dal venerdì alla domenica, ci sono gli spettacoli appunto tutti i fine settimana fino al primo fine settimana di dicembre. Venerdì e sabato sono serali, la domenica sono pomeridiani e la domenica mattina ci sono spettacoli anche per i bambini. Quindi il fine settimana tutti i giorni ci sono spettacoli differenti, ogni giorno uno spettacolo diverso. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? C'è un sito dedicato che è rassegnabattiti.it, dove si trovano anche eventuali convenzioni, costi, abbonamenti, eccetera, eccetera. E poi siamo su tutti i social, su Twitter, su Instagram e su Facebook. A seconda di quanto siamo boomer, possiamo andare in un social o in un altro. Visto che siamo alla 10ª edizione, come si sta sviluppando nel corso degli anni? La cosa che ci piace tantissimo è che siamo diventati un riferimento, che ormai la gente ci conosce, ci aspetta, ci anticipa a volte, nel senso che siamo a teatro anche in periodi impensati e dicono: ma aspettando la rassegna, quando la fate? Quindi siamo felicissimi che sia diventato un appuntamento non soltanto per chi è appassionato di circo teatro, ma in generale per chi ha voglia di vedere spettacoli un pochino al di fuori delle proposte classiche. Ormai il circo teatro, per fortuna, si è diffuso moltissimo, ci sono molte rassegne adesso che sono state proposte a Roma negli ultimi anni, però insomma ci vantiamo di essere stati i primi e di essere nei cuori delle persone. Stiamo diventando più grandi, abbiamo aumentato gli spettacoli, abbiamo aumentato i fine settimana, quindi insomma speriamo che sia sempre un percorso in crescita. Ne siamo molto contenti. 10ª edizione di Battiti, rassegna internazionale di circo teatro a Roma, Teatro Furio Camillo, dal 3 novembre al 2 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Alessandra Lanciotti. A presto! Grazie, a presto, buona giornata. Con Eleonora Turco di Fortezza Est per presentare Storie cinetiche nella città, passeggiate urbane e laboratori a Roma da Fortezza Est dal 28 ottobre al 17 dicembre 2023. Ben trovata. Ben trovati anche a voi, ben trovato Federico, un piacere di sentirti. Che cos'è questo progetto? È un progetto di riscoperta del quartiere attraverso dei racconti, delle storie che si sviluppano in una passeggiata urbana. L'idea è quella di scoprire angoli nascosti del quartiere, ma soprattutto di riscoprire delle storie che magari si conoscono poco. Abbiamo ideato un percorso storico, quindi siamo partiti dall'archeologia visibile del quartiere nella nostra prima passeggiata, siamo passati poi nella seconda nel Novecento, quindi quando effettivamente questo quartiere ha visto le prime case, quando si è proprio edificato, passando poi per la prima guerra mondiale, dove ci sono dei personaggi illustri come Francesco Baratta che hanno partecipato alla storia italiana recente, e le prossime passeggiate, poi il cuore di queste passeggiate sarà la resistenza, che è un tema caldo che ci sta a cuore e dove abbiamo vari personaggi, varie testimonianze veramente toccanti. Passeremo poi per la letteratura e il cinema, perché Torpignattara è teatro e luogo dove si ambientano film e dove sono stati scritti dei libri ambientati in questo quartiere, e poi finiamo raccontando la storia di muri attraverso la street art. L'abbiamo chiamato Muri Parlanti perché ci raccontano anche lì delle storie e sono in connessione diretta con il quartiere e i suoi abitanti. Tutto questo è un percorso biennale, perché parallelamente a queste passeggiate urbane che facciamo in collaborazione con la storica Stefania Ficacci, c'è un laboratorio che ha l'intento di creare una storia condivisa, quindi attraverso le testimonianze di persone che sono venute a vivere qui da altri paesi, da altre regioni, ma anche da altre parti del mondo, stiamo creando una memoria storica di quartiere attraverso uno spettacolo che si realizzerà il prossimo anno e sarà itinerante, quindi come le passeggiate costruiamo un percorso e i partecipanti, insomma il pubblico, andrà a scoprire queste piccole grandi storie ambientate negli angoli nascosti del quartiere. C'è una rete che ha dato vita a questo progetto? Sì, abbiamo fatto tutto in collaborazione con questa incredibile storica che custodisce la memoria storica del quartiere, che è Stefania, ma anche degli attori che collaborano con noi, che sono in primis Alessandro Di Somma, che è il co-direttore di Fortezza Est, me, Diego Migeni, Matteo Cirillo, Giuseppe Mortelliti, e poi ci sono Carlotta Piraino e Lorenzo Deliberato, che si occupano della parte drammaturgica e quindi gestiscono il laboratorio di scrittura creativa e soprattutto le interviste che facciamo agli abitanti del quartiere. Un bilancio dei primi incontri? Siamo stupiti dalla partecipazione delle persone, perché addirittura abbiamo fatto cessare la pioggia, c'era una pioggia dirompente, non pensavamo di partire, invece il tempo ci ha assistito e c'erano veramente tantissime partecipanti, e devo dire che è bello vedere l'entusiasmo del quartiere e la voglia di condividere una storia, che poi fondamentalmente è quella la cosa a cui teniamo di più, sia in questo progetto, nelle passeggiate, ma anche nella stagione teatrale. L'idea è quella sempre di creare uno spazio, creare un'occasione per condividere una storia che ci racconti e ci faccia leggere la realtà in maniera diversa, un punto di vista che apra un pochettino la mente di tutti e ci faccia stare insieme. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? C'è un evento Facebook che è Storie Cinetiche della Città, ma anche una pagina abbiamo creato, perché essendo un progetto biennale, attraverso quella pagina racconteremo un po' il diario di viaggio di questo progetto, e anche sui nostri canali social, che sono Fortezza Est, Fortezza Est Bookshop, ma anche sul nostro sito, che è fortezzaest.com. Il progetto è un progetto finanziato dal Comune di Roma per il bando Cultura e Movimento, quindi ringraziamo di questa opportunità, che insomma altrimenti non avremmo avuto modo di realizzare un progetto così complesso. Storie cinetiche nella città, passeggiate urbane e laboratori a Roma da Fortezza Est dal 28 ottobre al 17 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Eleonora Turco. A presto! Grazie mille a voi, vi aspettiamo domenica prossima per la prossima passeggiata. Con Miriam Marino per presentare il suo libro Macerie a Roma, allo spazio Off, Piazza San Cosimato 39, sabato 18 novembre 2023. Ben trovata! Ciao, salve, buongiorno. Che racconto è il tuo? È un racconto che abbraccia 15 anni di storia palestinese, perché lo sfondo è quello delle due intifade, la prima e la seconda intifada, passando per gli accordi di Oslo e tutto quanto quello che è successo nel frattempo. E quindi c'è un racconto in cui c'è una protagonista e quindi tutta la sua storia, però questa storia si svolge su questo sfondo. Diciamo che è un po' un romanzo di formazione, nel senso che questa ragazza è cresciuta in Israele, quindi parte da una situazione in cui pensa che c'è un po' il fastidio di tutte le ideali dell'ebraismo, però piano piano fa tutto un percorso di consapevolezza, perché comincia a conoscere la realtà palestinese in quanto sua mamma è palestinese, lei non lo sapeva e lo scoprirà nel tempo. E quando si reca, diciamo così, ad Hebron, vede una realtà completamente diversa e quindi comincia a farsi delle domande, a prendere coscienza. E poi c'è la seconda intifada, e quindi a questo punto lei prende posizione in modo deciso, perché ormai ha capito tutto, insomma. È come se il lettore fosse preso per mano a fare lo stesso percorso di consapevolezza, perché piano piano, tramite le cose che accadono nel tempo, è inequivocabile la realtà delle occupazioni, quindi non ci possono essere dubbi. Il percorso tutto è anche abbastanza documentato, quindi chi lo legge alla fine del libro non può avere più dubbi, può capire veramente come stanno le cose. Come nasce questo testo? Devo spiegare che questo io non l'ho scritto adesso, ma all'epoca della seconda intifada, quindi io sono sempre stata un'attivista per la Palestina, quindi conoscevo abbastanza bene i fatti, poi mi sono sempre documentata molto, quindi in quel periodo io ero praticamente coinvolta in maniera completa, insomma, in questa situazione, quindi avevo proprio questo bisogno di spiegare, di raccontare quello che accadeva, insomma, perché all'epoca, all'epoca erano tutti terroristi, c'erano gli attentati terroristici, quindi erano tutti terroristi, e io avevo proprio questo bisogno di raccontare invece come stavano veramente le cose, quindi è stato proprio un bisogno profondo di scrivere questo libro. Poi è uscito nel 2014 in realtà il libro, però poi recentemente Marcello Baraghini, che l'ha letto, ha detto no, questo bisogna distamparlo, e poi insomma con quello che sta succedendo adesso veramente può essere un piccolo contributo per far comprendere che insomma non è che Hamas si è svegliato la mattina e è andato a fare un'azione strana, insomma, ma è che qui c'è un'occupazione da 75 anni e che quindi la resistenza è un fatto inevitabile, perché in genere le cose vengono spiegate sempre fuori dal contesto, cioè i media ti raccontano l'ultimo evento senza spiegare da dove è venuto tutto questo, no? E quindi penso che spiegare che ci sono stati tanti anni di occupazione, tanti abusi, tanti assassini, e quindi è sembrato, insomma, che ristampare questo libro poteva servire a far conoscere, insomma, la realtà dell'occupazione anche da lontano, insomma, anche da prima. Dal 2014 ad oggi come hai visto trasformarsi la situazione? In peggio, poi adesso c'è il governo più a destra che è mai stato in Israele, anche se a mio avviso non è che questo sia un governo diverso, è semplicemente un governo più passato, nel senso che magari quando c'erano altri governi tentavano di farsi passare come democratici, ma in realtà è il turismo che sia di destra che sia di sinistra a sempre gli stessi obiettivi, e quindi non cambia molto, ecco. A tuo modo di vedere, a cosa mira questo disegno dello Stato di Israele? Mira molto lontano. Cioè, loro fin dall'inizio dell'occupazione hanno sempre avuto l'obiettivo di conquistare tutto il territorio palestinese, cioè non solo il territorio palestinese, anche altro, insomma. E quindi mira a distruggere Gaza per poterla rioccupare, anche perché ci sono delle riserve di gas lì a Gaza che gli possono venire molto utili, e quindi si vogliono liberare, loro sono sempre voluti liberare i palestinesi, in modo particolare. Adesso c'è, cioè, questo vero e proprio genocidio che stanno mettendo in atto, all'obiettivo di gastare tutta la popolazione, sterminarla, e chi rimane che vada via altrove, in Egitto, dove gli pare, e rioccupare il territorio, perché li perde, perché ci sono queste riserve di gas, perché i coloni già stanno ritornando. Insomma, l'obiettivo è molto molto tremendo. Ci sarà modo di parlarne a Roma, allo Spazio Off, piazza San Cosimato 39, sabato 18 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Miriam Marino, autrice del libro Macerie. A sabato! Ciao, arrivederci, grazie. Siamo all'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ben trovato, Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Questa settimana a teatro c'è un bel po' di roba, sono le ultime settimane del Roma Europa Festival e quindi insomma andiamo a vedere che cosa ci offre con un po' di velocità, perché si parte sempre come al solito, come ormai stabile, dal teatro stabile di Torbella Monaca, diciamo così, dal teatro Torbella Monaca, che inizia proprio questa sera con due repliche, oggi e domani, nella Sala Piccola, Lo strano caso del dottor Jerome Storm, drammaturgia di Rocco Bucciarelli, con la direzione di Zenone Benedetto. Siamo in un futuro lontano, nell'era galattica 3000, su un esopianeta, in una terra in formazione, dove appunto il dottor Jerome Storm, capo missione del presidio del mondo interplanetario Delta, trascorre le sue giornate creando nuovi mondi accoglienti per l'umanità. Interessante questo lavoro, oggi e domani al Torbella Monaca. Seguirà appunto da giovedì a sabato 16-18 la classe operaia Se ne va dal paradiso. Italian Jobs è il titolo, la regia di Caterina Casini, in scena Deborah Mattiello, scrive anche il testo. Un viaggio inchiesta per la trasformazione del mondo del lavoro e sulle nuove forme professionali imposte dal mercato contemporaneo. Quindi una riflessione sul mondo del lavoro molto interessante. 16-18 novembre per Torbella Monaca, siamo Torbella Monaca. E nel fine settimana invece andremo a vedere ancora un lavoro venerdì, da venerdì a domenica 17-19, Tenente Colombo, analisi di omicidio, Prescription Murder. Questo è il titolo dello spettacolo con la regia di Marcello Cotugno, che insomma, arriva in Italia dopo 5 anni di sold out in Inghilterra, America e Francia, e guarda un po', poi arriva in Italia e arriva al Teatro Torbella Monaca. Sempre così, quando succedono queste cose, sempre molto incuriosito dal percorso che fanno questi grandi testi iper rappresentati a Broadway e che poi finiscono in Italia, appunto, a Torbella Monaca. Questo per ciò che riguarda questo teatro. Ricordo anche per i più piccini, diciamo domenica 19 nel pomeriggio, una lettura animata da Gianni Rodari con Alice Giovannino, sempre alla Torbella Monaca. Procedo andando oltre, perché dopo di questo dirvi che a Teatro Vittoria da questa sera fino al 3 dicembre torna alla maestra del brivido Agatha Christie, Miss Marple, giochi di prestigio, la regia è di Stefano Messina, quindi insomma la suspense, il mistero, ma anche la comicità e il fascino della grande scrittrice del giallo Agatha Christie al Teatro Vittoria fino al 3 di dicembre. Poi andiamo anche al Teatro dei Servi per il Teorema della Rana con la regia di Luca Ferrini, spettacolo con molti attori, una farsa molto comica dai ritmi frenetici. La situazione nasce da un paradosso: un uomo che ha frodato lo Stato per ricevere più sostegni di quelli previsti si pente delle sue azioni, ma non riesce a fermare l'ingranaggio statale che continua ad inviargli sempre più soldi e lui non sa come fare. Curioso, molto intelligente questo lavoro. 14 novembre, 26 novembre per il Teorema della Rana al Teatro dei Servi. Continuo nel indagare il teatro di questa città. Ricordo per esempio che Arte in Connessione ci invia questa rassegna di eventi artistici Corpo Città fino al 26 di novembre. Sono 5 giornate di eventi multidisciplinari e gratuiti. La seconda settimana riguarda, questa è la seconda settimana, il 19 domenica a Fortezza Est, quindi quartiere di Tor Pignattara. C'è un ricco programma che parte già dalla mattina, alle ore 11 c'è un'esplorazione urbana creata da Dom con i partecipanti al laboratorio di pratiche performative ed è una passeggiata, insomma un esercizio di nomadismo collettivo, così Dom racconta la sua esperienza. Poi ci si rivede in serata perché dalle 19 Si comincia con un talk con Giselda Ranieri e Margine Operativo, che si chiama Human Landscapes, nell'ambito, con Giselda Ranieri, la proiezione di una serie di piccoli video realizzati da Margine Operativo nell'ambito del festival Attraversamenti Multipli. Alle 20:30, sempre Giselda Ranieri, però sarà in scena con Tina, There is No Alternative, spettacolo di danza, una coreografia giocata sul filo tra reale e visionario, un confronto tra personale e sociale. Mentre alle 21:30 la compagnia Dotta Maglietto presenta questo progetto performativo che si chiama Ginnastica per una postura fragile. È una residenza artistica di Fortezza Est che è un rovesciamento del mostruoso e del mito del Minotauro, in cui l'umano si dissolve a favore di un mio ibrido e mutaforma. Questo vedremo per Corpo Città alla Fortezza Est. Poi procedo ancora, perché al Teatro Parioli arriva la Compagnia De Filippo con Enzo De Caro, però, perché De Filippo sono un po' finiti, dal 15 al 19 per il L'Avaro Immaginario. Questo crossover, diciamo, tra i due testi di Molière, che vedranno la scena per questa settimana al Teatro Parioli. Poi ancora al Teatro Ulpiano, aiutatemi a dire, perché il Teatro Ulpiano, io non so proprio, non ci sono mai stato, mi sorprendeva la presenza di un teatro che non conoscevo, ma sta a Roma, via Luigi Calamatta 38, chiunque conosca il Teatro Ulpiano mandi un messaggio in redazione, perché abbiamo bisogno di informazioni in più. Sicuramente però questa settimana sappiamo che da domani fino al 19, ispirato all'Antonio e Cleopatra di Shakespeare, Stefano Napoli presenta Circus Dark Queen, ed è un lavoro che ripercorre la vicenda di amore e morte, potere e passione, di cui la regina d'Egitto Cleopatra appunto è protagonista per brevi flash, crea insomma un cortocircuito di citazioni colte e magari popolari. Questo andremo a vedere al Teatro Ulpiano dal 15 al 19 di novembre. Ancora, io insisto, vado avanti, perché qui c'è un sacco di roba e non possiamo togliere niente a questa trasmissione. Dal 16 al 19 di novembre, Teatro Lo Spazio, arriva Harold Pinter, non lui perché è morto, no, è Tuccio Camerini, la sua regia, che presenta Il Guardiano, testo che porta due fratelli e un vecchio, una stanza di periferia che sembra più un magazzino, accerchiata da immigrati di tutte le razze in una grande città ormai grottesca. E questa vicenda appunto che vale ad Harold Pinter, nonostante sia del primo periodo, valso ad Harold Pinter, primo periodo insomma del 1960, questo testo, una delle vette della sua scrittura che gli è valsa del premio Nobel, lo andremo a vedere appunto al Teatro Lo Spazio dal 16 al 19 di novembre. Poi, sempre alla Fortezza Est, perché per non farci mancare niente, dal 16 al 18 novembre andremo a vedere anche Tre Liriche, questo spettacolo scritto e diretto da Jacopo Neri, con oltre lui Chiara Ferrara e Dario Cascuri, che vede per la prima volta la scena ed esplora il nesso tra amore e paura. La paura del coinvolgimento durante le prime fasi della relazione e poi la paura della perdita quando il rapporto è più stabile o comunque potrebbe in qualche modo cambiare, forse la paura dell'abitudine da un lato, la paura di non avere abitudini, chissà. Dal 16 al 18 novembre, Fortezza Est, Tre Liriche, nell'utopica ricerca della sicurezza, soprattutto nelle cose d'amore. E invece allo Spazio Rossellini arriva un testo scritto e diretto da Emanuele Aldromandi, che insomma abbiamo visto già in altri teatri in tutta Italia, insomma con una certa prodotta dallo Stabile di Torino, quindi uno spettacolo particolarmente noto, L'Estinzione della Razza Umana. Venerdì 17 e sabato 18 novembre è una sorta di esorcismo in qualche modo che ci aiuta a metabolizzare il nostro presente con ironia e con un po' di grottesco surrealismo, insomma, questo mondo frenetico e disumano che sta che appunto poi ad avere la meglio sia proprio l'umanità a un certo punto, visto che deve scomparire da un momento all'altro secondo quello che leggiamo e ascoltiamo insomma dai vari giornali e telegiornali. Caroline Pagani e Filippo Bruschi se ne vanno con Luxurious Lost in Last 18 e 19 novembre al Teatro Copò. Molto non ne parlavamo del Teatro Copò, ed è un un lavoro che in qualche modo viaggia nella storia, perché viaggia nella storia delle donne. Ne cito solo alcune: la Francesca Darini cantata da Dante nel Quinto Canto dell'Inferno, Eleonora Duse, Franca Valeria, la Monna Lisa del porno, cioè Moana Pozzi. Questo è quel viaggio nel femminile e come una rivolta contro il femminicidio che si fa estasi della parola. Questo è quello che ci viene detto al Teatro Copò 18 e 19 di novembre. Mentre poi invece andiamo alla rassegna Battiti anche questa settimana, perché 17, 18 e 19 novembre andiamo al Teatro Furio Camillo per lo spettacolo Paidia della compagnia Teatro del Sottosuolo, con un retrogusto noir, uno spettacolo di sperimentazione circense, giocoleria, bicicletta acrobatica, trombettine di Benedict, no vabbè questo non penso, non lo so, però sicuramente c'è una, no scherzavo, ovviamente, Clavo Bersagli, giocoleria, basso in batteria, questo vedremo in scena del 17. 18, Gioia Santini presenta Spaiata, dove la giocoleria, la manipolazione di oggetti compongono il viaggio all'interno di un grande baule dove il protagonista sono i piedi, e questo è una cosa che andremo a vedere perché sono curiosi. Domenica 19 novembre invece Paolo Lombardo con lo spettacolo Concert Joué porta, diciamo, un'esibizione un po' che unisce musica, fisicità e comicità in un costante pericolo di perdere tutto e di non andare in scena. Questo più o meno è quello che ci dice la scheda. Mentre invece al Centrale Preneste andiamo di nuovo a vedere la rassegna U3 degli Young City, sempre ingresso gratuito questa, lo ricordo perché è importante, venerdì 17 con Carne, lo spettacolo di Frosini Timpano, che ragiona sull'animalismo, sulla possibilità di mangiare o meno la carne, insomma sul vegetarianismo, sul veganesimo e tutto ciò che ha a che vedere con l'evoluzione del genere umano. Mentre invece domenica 19 andremo a vedere il pomeriggio alle ore 16:30 Il Principe delle Tenebre, lo spettacolo che Ruota Libera Teatro, che appunto è residente al Teatro Centrale Preneste, presenta al proprio teatro. Il testo di Fabio Traversa, la regia di Tiziana Lucattini, e si ispira alle misteriose atmosfere di Nosferatu, capolavoro di Friedrich Wilhelm Murnau del 1922, grande esponente dell'espressionismo del cinema tedesco in bianco e nero, di cui già faceva menzione Fantozzi nel famoso collegamento tra la corazzata Potiocchini e i grandi maestri dell'espressionismo tedesco. Detto questo, noi ce ne andiamo anche e soprattutto in altri teatri, perché non abbiamo finito, attenzione, Teatro Tordinona torna alla Compagnia del Sole con questa produzione Il Grande Inquisitore, tratto chiaramente dai fratelli Karamazov. I fratelli sono tutte e due in scena, Flavio Albanese e Tony Marzolla, la regia è quella di Marinella Naglerio. Io questo l'ho visto e lo consiglio perché è fatto molto molto bene. Il confronto dei due fratelli, un aspirante scrittore e un aspirante monaco, partono da posizioni contrapposte nel vivere la vita, ma poi si confrontano come una sorta di lotta, e chissà che poi insomma la lotta abbia o meno un vincitore. Poi ancora, e qui non se ne esce più, abbiamo un sacco di roba, Teatro Quarticciolo, Biblioteca Quarticciolo, Remix, Pietro Angelini, Francesca Santa Maria, Vittorio Pagani, 18 e 19 novembre, una riflessione sul mito di Narciso con una declinazione contemporanea. La performance è sulla relazione tra l'essere umano e questa volontà di specchiarsi con la propria immagine rappresentata, quindi ha a che vedere con le tecnologie moderne, con questa nuova e forse molto antica relazione tra reale e virtuale. 18-19 novembre, Remix, Teatro Biblioteca Quarticciolo. Poi al Teatro Quirino invece una regia di Gigi Proietti, pensa un po', tu dici che era morto? No, perché presenta, debutta con questo Romeo e Giulietta di William Shakespeare da questa sera fino al 19 novembre. No, scherzo, sicuramente è una regia di Gigi Proietti che Loredana Scaramella riporta in scena per rivivere un po', diciamo, la visione su Romeo e Giulietta del nostro grande attore e direttore del defunto presso Globe Theater. Se ne vanno al Teatro Quirino dal 14 al 19 di novembre. Teatro di Roma presenta invece una trilogia particolare perché firmata da Giuseppe Di Pasquale e fino a lì nulla di che, no, nel senso notevole, però insomma nulla di così strano. Non è strano neanche che il testo sia di Luciano Violante, che in scena ci sia una bravissima attrice come Viola Graziosi. La cosa particolare è che è una liturgia sulle donne dal mito ai social, ed è un lavoro che parte da Medea, passa per Clitennestra e arriva fino a Circe. Clitennestra e Medea saranno in scena il 19 di novembre in due orari, ma Circe invece è il debutto proprio di questa stagione, ed è un spettacolo che sarà in scena da domani. La produzione del Teatro di Roma sarà in scena da domani fino al 26 di novembre, con gli stessi protagonisti, sempre in scena Viola Graziosi, che appunto nell'occasione del 19 novembre farà questa maratona, questa trilogia con i tre testi uno dietro l'altro, che appunto affrontano questi tre grandi personaggi del mito. Per ciò che riguarda invece Roma Europa Festival, l'Auditorium Parco della Musica, con 18-19 novembre la danza internazionale con Kudus Onikaku Reincarnation, questa è la pièce firmata dal conoscente della danza africana con grande creazione di grande energia, che sembra utilizzare la tradizione come un filtro per invitarci a immaginare il futuro. Quindi tanta commistione, tanta mescolanza tra le radici dell'afrobeat, la musica nigeriana, la dancehall, hip hop e musica electro, questo sul palco dell'Auditorium Parco della Musica. Ancora questo fine settimana ci sono gli spettacoli, la danza in realtà anche da domani all'Auditorium Parco della Musica, perché sempre per Roma Europa Festival, quindi 14 e 15, di oggi e domani, perdonate, Christos Papadopoulos con Dance on Ensemble, Mellowing, è lo spettacolo che andremo a vedere, questo minimalismo rigoroso, ma anche queste ipnosi sovversive, visionarie, che si ancorano ai dettagli della natura e del reale. Questo è quello che il coreografo greco porta sul palco del Roma Europa Festival, con molti danzatori insomma, che vengono incorporati in una scrittura coreografica con tutta la loro esperienza corporea. Questo, quindi, il corpo particolarmente presente all'interno di questa creazione di Papadopoulos, 14 e 15 novembre all'Auditorium Parco della Musica. Ancora ci sono gli spettacoli di Red Kids per i bambini, e segnalo, oltre al weekend ancora dedicato a Una tazza di mare in tempesta di Roberto Abbiati, che riporta un Moby Dick dentro una piccola cambusa del Pequod, ci saranno anche al Mattatoio, stesso posto, 17-19 novembre, Menhir Monster con Lucky Luke, che è uno spettacolo ispirato alla famosa serie a fumetti Lucky Luke, un western che insomma omaggia la fantasia dei bambini. Questa compagnia Menhir Monster quindi entra all'interno del selvaggio West, però con insomma tanti giochi per bambini, è lo spettacolo dai 6 anni in su. Poi Hedgehog Quiz, così con Io, sempre dal 17 alla 19, porta i bambini all'interno di questo teatro musicale che costruisce uno spazio fuori dalle logiche della fisica, perdendo la gravità, capovolgendo, sfidando un mondo fantastico e poetico sul palco. Vedo qui delle capovolte interessanti nella scheda, ed è dagli 8 anni in su. Ma per i più grandicelli, direi questa settimana ce ne andremo al Roma Europa Festival per ben due lavori. Il primo debutta domani ed è il nuovo lavoro firmato da Fabiana Iacozzilli, ultimo lavoro della trilogia del vento, Il Grande Vuoto, da mercoledì fino a domenica 19. Per questo lavoro che segue la trilogia con i primi spettacoli della classe, che poi prosegue con una cosa enorme, sono quattro quadri che raccontano il dissolversi lento di una famiglia, una coppia di anziani, una figlia e sua madre malata di Alzheimer. Un spettacolo molto profondo, ho avuto modo di vedere alcune cose, parlare molto con Fabiana Iacozzilli, quindi sono molto curioso di questo spettacolo, con una scrittura che sia ancora al teatro di figura e alle macchine sceniche, si torna a parlare delle zone d'ombra della nostra esistenza, e questo assolutamente accade sul palco con Fabiana Iacozzilli, Teatro Vascellude, dal 15 al 19 di novembre. Ma questa settimana debutta all'Auditorium Parco della Musica, anche il nostro Pasquale Celestini, ne abbiamo parlato, rumba l'asino il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato. Questo è il titolo completo di Rumba, appunto, che dedica uno dei racconti di Stefano Celestini a Francesco il Santo, che scelse di servire i poveri nel 1223 a Greccio e creò il presepe vivente. Questo è quello che andremo a vedere al Parco della Musica per Roma Festival, e con questo è tutto. Ciao a tutti! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.